io ho corso da jazz, blues, rock, punk. Pensa che facevo la foto negli anni 70 in grandi concerti, quindi sono io suono da. I musicisti suono, ma la musica è vita. Vai a vederti anche un'opera. Sì, sì. Cazzo ti ridi. Ma tu guarda, ti guarda. Cioè ti. Cazzo ti cazzi. Ti sconvolgo adesso. Ma no, cazzo vuol dire? Ma con l'opera ti fai due coglioni che non finiscono più. Ma no, dipende quale, ma dipende devi provarla a vedere. Ho capito. Ma il mio segreto è chiuso in me. Ma no, cazzo, ho capito, ma non è che ti vai... Porca puttana! Minga, qui arriviamo allignati! Quella... Ma non è... No, ma che cazzo ti sei fumato stasera? Ho capito, però tu... No, vai a vedere un'opera, vedi prima che cazzo è, vai a vedere la caracata subito, vedi magari io la roba... penso come Woody Allen, ogni volta che sento Wagner mi viene voglia no, di ma fare Wagner la Polonia. Non è opera. No, Wagner non è opera. Wagner non è opera. Cosa, no? È una ripetizione di dai, vai. Continui dal pianissimo al fortissimo, poi scendono al pianissimo, poi ricominciano, è una rottura di coglioni pazzeschi. Esatto. È Wagner. È un'opera. Ah, perché non è già... Andiamo a abbassare il microfono. Io perfetta, andata come pasta sempre. Forno, la pasta forno è squisita. Ma tu hai provato la parmigiana? Hai provato la parmigiana? Anche la parmigiana. Anche la parmigiana. Adesso mi chiamate con me. Con le mandorle. Grazie. Potete pure parlare di però è molto bello con la costa verde. E allora, e allora, e allora oggi la mucca guardalina, la pecora matta, Giovanni e Maiale, la gallina Olivia hanno passato la giornata nei campi e al loro rientro scoprono che la batteria è sotto sopra e c'è fango dappertutto. Io non ho capito una cosa. Giovanni corre al cortile. Paola come ha fatto? Maiale. No, perché allora gli abbiamo liberato. Poi che riunisce Giovanni. Il canale preferenziale. Qualcuno è entrato nel mio casetto e si è rotolato nel palco. Allora, intanto se buonasera e se buonanotte, se agli amici della notte, anche stasera siamo qua e per fare questa serata radiofonica, che è all'incirca tra 15 minuti avrà cominciamento. Allora io vi spiego, c'è stato un piccolo ritardo che ci ha effettivamente sbalzato fuori di un paio d'ore, però come si dice... Come ci dice Michele, il ragazzo che ci sta seguendo, è tutto normale. Praticamente la serata si svolgerà in tal senso. Se c'è qualche dubbio, adesso sistemiamo tutto. È stata una cosa un po' improvvisa, va bene? Organizzata. Ci siamo quasi, ok? Hai detto subito sì. Bravo. Invece Lello com'è che sei stato ingaggiato in questa serata fantastica? Ragazzi, beh, io sono un fotografo. Ok. Faccio reportage. E sai di voi? Avevo fatto una mostra fotografica qua. Ah, ok. Quando ma adesso che era, mi sembrava di averti visto. Vai, vai, tranquillo. Le lasagne sono squisite come tutte le Lello. Adesso mi ricordo e comunque niente, ci siamo conosciuti così, ho fatto la mostra, poi ho fatto la testa anche io, l'uomo giusto, il posto giusto, e io anch'io sono un artista. La prole non deve vergognarsi. Bravo, sì. E quindi sono stato chiamato a fare questo concerto. Piazza piazza. Speravo di toccare un passo, ma qua. No. Scusate. Ma i commensali hanno già preso la pasta al forno. No, dico che non vorrei che mi morissero di fame. Proprio sul più bello. Per favore, qualcuno mi dice se i commensali hanno preso la pasta al forno? Vuoi venire a una festa? E poi... Commensali, avete mangiato la pasta al forno? Ma c'era la besciamella o non c'era la besciamella? Eccomi qua, come vuoi prendermi. Ma lo conoscevi già questo posto? No, non lo conoscevi, la prima volta. Sì, la prima volta. Ho tirato il mondo, si è cerato e ho scelto la iena. Bravo. Non c'è la iena. Poi io la iena. È il canguro, io la canguro. Come iena plinky. Il canguro io. Scusa, in Milano. Io in Piazza Grande. Piazza Grande. Coccodrillo. Posso uscire? A tu invece sei il paese del... Devo chiamare una limousine. arrivo a casa. Ci colleghiamo? E quindi anche con il Santo Padre. Molto bene. Papa Francesco. Buonasera Santo Padre. Grazie. Oh, ma è la seconda volta che fanno applausi a veramente. Grazie. Grazie per gli applausi. Grazie, grazie, grazie, grazie ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie. Basta, basta adesso. Basta. La lasagna in bocca. Santo Padre, no, eh? Grazie. Grazie con tutto il cuore. Con tutto il cuore per essere allora, con noi, come sempre del resto. Perché è una delle cose che più mi colpisco. 802 volte. Di lei e che lei è con tutti. Il suo sguardo allora, ogni giorno l'intera umanità. Lei ha incontrato migliaia di persone, ha ascoltato migliaia di storie, di sofferenza, a volte di un indicibile. Qua tra un po' ci mangiamo, ecco, tra di la noi. La prima cosa che mi piacerebbe chiedere è come fa a riuscire ad abbracciare tutti e come fa a sopportare un peso così grande, Santa una roba segreta. Io mi sto chiedendo. No, avevo il microfono. Ma scusate. Oh no, tira su. Grazie, grazie. Ho nascosto tutto, non sto facendo niente. Doppia, mi piace tanto. Non te l'ho detto che eravamo in diretta. Patrona. Donna. Non lasciare quelle robe lì in giro, cazzo, che sei un po'. Che vedi tanto che mi sento così. Tanta gente è consciente per essere amato, come la parte di bollezza sposata, come la famiglia che devono tutti, il salario è più ammesso. Sita, Sita, il numero uno dei produttori del Sita dal mondo. Sono stati in India. Ma di che scherzo parliamo a fare? Un giorno a te. Sei sicuro che non eri a Milano Marino? Vedi che sei della Valle d'Aosta. Il formaggio è il formaggio si sta per scegliere. Sono stati trovati in modo in alcuni della confine tra Grecia e qualche settimana prima era più basso. Tre amici, ma non era quattro volte. Che ritraeva dei bambini siriani. In particolare mi ha colpito una bambina tremante, freddo, malamente vestita. Ma è quello lì sulla collina. Addirittura solo delle ciabattine, scarpe, ma non neanche le calze. Quando l'ho vista mi sono detto, davvero non dovrebbe esserci niente di più urgente a questo mondo che occupavasi della bambina. Anzi, guarda, ti posso dire che questo è io ho lavorato qualche anno in Val d'Aosta. Poi sono tornato della cultura dell'indifferenza. Nel 2008 e andavamo a mangiare in un posto che sono categorie. Il primo posto e il secondo posto. Le categorie al primo posto in questo momento, mi spiace dirlo, sono le guerre. La gente è al secondo posto. Pensa per esempio allo Yemen. Va bene, allora io vorrei fare un applauso a questa bella quanto tempo fa che si parla dei bambini. Oddio, allora la rifaccio. Allora, chiudo il sito. Un esempio chiaro. Io vorrei fare non un applauso alla soluzione al problema. Anche, buonasera. Non voglio esagerare, più del 7, sicuro. Vi spiego che cosa sta succedendo. Tra 6 minuti e sono le categorie 46 che secondi sono saremo basso, finalmente i bambini immigrati, i poveri, coloro che non hanno da mangiare. Questo non contano. Allora, tra 6 minuti e 36 secondi saremo in diretta su tosunian.it. Ora vi spiego. Diciamo così. nel senso non è che chi si mette su tosunia.it può ascoltare la radio. Il discorso è che per i presenti vi spiego, c'è una lista circa di 12 nomi che si sono prenotati due mesi e mezzo fa circa. Tosunia.it funziona così su prenotazione, dato che abbiamo ancora qualche minuto di tempo prima della diretta, e vi spiego un po' qualche informazione tecnica. Insomma, questi gentili ospiti che si connettono tra circa 6 minuti e qualcosa verranno proiettati all'interno del suono che si permette, dopo la bellezza di 5 anni, perché la cosa è iniziata ben 5 anni fa, quindi questa è una cosa un po' strana, insomma ci sono questi signori che si seguono con molta passione. Quindi questo, io vorrei fare un plauso a questi signori che sono comodamente da casa o in macchina e stanno guidando chissà verso dove e aspettano a brevissimo di sentire l'ennesima diretta della radio più cool del Friuli. Per quelli che sono invece qui, che non sa che cazzo sta succedendo, perché Tizio ha detto a me che Gian Michele bussò alla porta, è una cosa molto sincera. Quello che ascoltate è una questione, quello che vedete è un'altra questione. Quei 12 ragazzi e ragazze, signori e signore che ci ascoltano tra pochissimo, ci possono soltanto ascoltare, voi potete anche vedere. La radio non ha immagini, la radio è puro suono, quello che vedete è un puro fraintendimento. Se volete viaggiare, chiudete gli occhi e viaggerete insieme ai 12 signori che meno di 4 minuti si sono... Oddio, rifacciamola tutta, scusate. Non morale, ma proprio razionale, la parola guerra. Ah, Dio. Vabbè, allora chiudete gli occhi se vi va e viaggiate con noi. A tra poco, va bene? Come mai da 7 anni è arrivato qua? Perché il voglio la Valle d'Aosta, è scappato dalla Valle d'Aosta. Pece con azuka e a te ne mi dirà brazuka e se mami e su nacci. She got hips, I got a good four, a lot of ass, don't need to have more, I know it's sweet, I like that. I got word that is wet, well it's drown, toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this word right when you come in town. Se le mie sono anche questa sera siamo qua. Non siamo qua per noi, non siamo qua per voi, non siamo qua per tutti. Essenzialmente più cool è il Friuli, questa voce, ma non lo vaga guarda. Cosa la famiglia non la tiene che cuccia. Lo capo con lo capo, io sono la bomba. Lo segreto solo con chi puoi confia. Ma te vale non romper la morta. Tic, però non da vivere. Sono ancora nei miei occhi, negli occhi di tutti noi, le immagini recenti a Lesbo, dei suoi sorrisi e delle mani tese verso di lei che cercavano di salutare. Lei ha detto che vedere respinti migranti che magari hanno subito detenzione, torture che ormai ci sono note, non si può far finta di niente, le conosciamo. E soprattutto tutto ciò magari in nome delle religioni, innanzitutto le procure, ma anche detto che quando si respinge i poveri si respinge la pace. Ma non parlare di cazzo che ti rovino, cazzo. Dai, per favore, non al mare. Io sono milanese, del tuo vino che sono dai filmati. Sui amici, non posso la parola su sé. Cazzo, è importante una bottiglia. Siamo dei trafficanti. Cosa soffre di qua? Vediamo un'altra, ne vediamo una per uno. Una per uno. Due pappine. basta con le stracci, basta, basta con le stracci, basta con le violenze, basta con l'odio e via. No, io sono milanese, mio nonno nel 66 mi ha portato a vedere Milan che ha vinto la Coppa di Campione. Basta con le stracci, basta con le violenze, basta con le stracci, basta con le violenze. Basta con le stracci, basta con le violenze, basta con le stracci, basta con le violenze, basta con l'odio e via. Porca troia, sto circondando dagli interessi, perché ho visto già ieri gole nella sua faccia. In Spagna e in Italia, i due paesi più vicini, c'è un chissà. Ragazzi, è arrivato il dolce. Non li ricevano altrove. Basta con la lasagna, il dolce, che sembra veramente che stiamo mangiando. No, ma dai. No, ma è proprio così. Ma ufficiale non c'è un cazzo. Ragazzi, lui sta parlando, ma è un ingordo. No, qua, io ho capito. Se ha fatto mezza lasagna, se ha fatto apricot. Alla mia banda qua, ma è caduto della strada calda, sudata, sudata. hai topato. Se pensi che sta MC sia flippato, io l'ho dato per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, manco se finisca sgato. Gene della strada, po' del rap, sei topato. Se pensi che sta MC sia flippato, io l'ho dato per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, manco se finisca sgato. Gene della strada, po' del rap, sei topato. Regno vivo e neri come cocaina. E cala come ampetamina fin dalla mattina. Allora, qua abbiamo preparato canne, canine, mangiare non ha nessuno. Sto facendo un lazzo col cavolo del microfono. Con un palo di un pronto a duello. Ancora adesso non sono Mike Manganello, Mike Poncerello, sempre con cavallo. Pallone baghi, pinna, ricenuto. Pensavo di alzare. Allora, no. Allora, scusa, non hai dire mai. Tutto può cambiare. Toccare le miserie, toccare ci porta all'eroicità. Penso ai medici, agli infermieri, le infermiere che hanno dato la vita in questa pandemia, hanno toccato il male e hanno scelto di rimanere lì con gli ammalati. Questo è grande, ma quando se tu non tocchi il tatto, una volta ho letto un articolo molto bello, il tanto dove il senso vabbè, ma è quello che ci mette la realtà nel cuore. Io ti domando, no, ma è come vieni a consultare, dico una cosa, se guarda che negli anni è come dire che Rosy Bindi è intelligente, dai questa cosa tutto negli anni 70 non so. Cioè, ma gli artisti va bene, ma l'arco sud no, sono stati punto di mio padre. Certo che non era bella, ma se non te la compra nessuno, prima se la compra io. Senza toccare con le nostre mani, non sarei il dolore della gente. Andrea, ma per come si era l'auto più potente, ma di che? Soluzione di questa lampada, questa è la cultura dell'indifferenza. Guardo a distanza. La sua riflessione ce la ricorderemo per sempre. Ha ragione, Santo Padre. Vuol dire proprio farsi carne in qualche modo, ecco, assume un significato pieno. Quando la parola assume un significato pieno. Questo anche nei confronti della terra, anzi della madre terra. Poco fa, perché il fiume silenzio selettivo. Silenzio fino a che non arriva. Informiamo, informiamo che abbiamo cominciato uno sciopero della parola fino a che non arriverà il cibo, non diremo più niente. Donald, ma la pasta al forno vi è già arrivata. Ma la pasta al forno vi è già arrivata. Credimi sulla fiducia. Ma guarda, ok, lo sciopero in racconto della storia. 32 secondi. Della notte, anche stasera siamo qua. Stiamo mangiando delle cose deliziose che ha preparato la nostra amica Giuliana. Allora, Giuliana è la madre, tra l'altro, di un nostro caro amico che è qua. Ma non l'ho preso. Allora, io inviterei gli astanti e i presenti. Dato che voi siete i signori, non finite neanche a signori e signori, la cena è servita. Il solito problema del proletariato. Ecco la lasagna. Madonna, Dio santo, c'è sta la pasta al forno. Pasta al forno, minchia. Cilello, vai, minchia. Vai con la pasta al forno. Basta, grazie. Che non c'è mezzo. Signori, signori della regia, allora è finito già lo sciopero. Annuncio che lo sciopero è terminato. Cioè, allora va bene, ma c'è la luce di candela. Abbiamo fatto un piccolo sciopero. No. E dobbiamo mangiare col cucchiaio. Perché è l'uomo da dietro, è quello famoso. Non so neanche io perché. Buon appetito, comunque. Grazie, grazie altrettanto. Perché devo avere sempre anche bisogno degli altri? Io devo essere cretina. Ma è per questo che non so cavare. Ma hai visto? Dovrebbe far riflettere questa cosa. Si attendono i commenti, per favore. Sai cosa vorrei? Comunque, lo sciopero paga. Tutte le persone che mi hanno voluto bene. Però averle qui intorno a me. Come? Bisogna far capire il potere che ha. Un muro. Se bagno non certo si mette in gola adesso, sto dall'angolo della noia politica. Sto parcheggiando, viene qui, allora io ringrazio la nostra amica Giuliana che ha fatto una cosa deliziosa per questi amici che ci seguono da qualche metro più avanti. Grazie Giuliana. Ciao Giuliana. No, Giuliana non è la ragazza che ha fatto la pasta, quella è Marta. Giuliana è la ragazza che ci ha preparato una cosa deliziosa. Brava Marta. Siamo qua. No. Ho detto Marta, non Nathan. Ho detto comunque, no, non comunque. Giuliana, la madre di Nathan. Oddio. Allora, un attimo di silenzio, va bene. Giuliana, ma intanto mangiate, va bene, mangiate voi. Vi richiamiamo tra poco, va bene? Grazie. Grazie, buon appetito. Grazie, allora, grazie. Sì, buonasera e sì, buonanotte. Sì, gli amici della notte, anche stasera siamo qua. Non siamo qua per noi, non siamo qua per voi, non siamo qua per tutti. Essenzialmente siamo stati invitati da questi ragazzi deliziosi che gentilmente ci stanno ospitando questa notte per dormire in questa residenza meravigliosa, piena di arte, piena di cultura, piena di dolcezza e simpatia. Nel frattempo siamo qua, tra di noi, tra di voi. A breve ci sarà una piccola sorpresa, nel senso che per gli amici che sono qua presenti, non solo quelli che stanno mangiando, ma proprio quelli che sono seduti anche qui davanti a noi, in silenzio, nel pensare, oddio, ma aiuto? Bene, allora, arriverà una sorpresa, si spera, gradita, tra pochissimo. Io spero che tutti quanti beviate di buon gusto. E quindi tra poco, veramente poco, c'è una piccola sorpresa, va bene? Un pochino di pazienza. Ricordiamo. Non ami i dolci, ma. Ma ci saranno dei momenti alti in questa discussione? O dire che è bassa? No, anzi. Che non ci piacciono. Devo dire che è medio alta, ma dei momenti veramente alti. Bisogna. Verranno innescati da qualche. Vai! Così. Non lo so. Alza il tiro! Vai! Accendi la miccia. I crauti sono. Andiamo subito. Oh, Monica Vitti! Che si schiaffano! Dentro ai barili. E poi si vendono a chili. Quattro etti, due etti, a piacere. Non proprio non lo sapevo che la pistola. Puoi togliere Monica Vitti, per favore, c'è chi si emoziona. Certo, l'avessi. Non riesce più a mangiare, si è bloccato. Non avrei fatto boom. Crauti, mi ricordo. Ma adesso che il guaio è fatto, portate via il morto! Sì, sì, sì, sta! C'è una paralisi, Monica Vitti. Ma no, ma c'è, no, è morto. E non farò. È morto, morta l'altro ieri. Beh, sicuramente sta meglio di noi adesso. Cazzo, ne abbiamo. Ricordo una sera a Varasse che si andava verso Savona. Forse non era Varazze. Non era Varazze. Forse non era. E non era Savona. Nemmeno Savona. Forse non era neanche. E non era nemmeno quella volta. Brava, brava, brava. Ho capito, dice, no, ma c'hai altra birra dentro. Sempre la stessa musica. Questa tavola. Madre morta fisica, tu me farai morire decrepato. Noi donne siamo nate condannate, campamo innamorate, morimo appassionate. L'anima mia va in dolore. 3 minuti di sinistra scacciara, invece lei la vai a cercare. Vola sui prati e zompa sugli rami. Devi togliere Monica Vitti. Ma non scappa così, mio bello Pierre. Che accorra presso a te, meschio percorso. Vabbè, che ce vuoi fare? Questo è l'amore. Lo so che posso far, questo è l'amore. No, il padre l'altro non ha capito che c'è stato richiesto. No, non c'era stato richiesto un momento di silenzio. Questo è l'amore. La cena è. Com'è la cena? Com'è la cena? Ringraziamo Marta per l'attore. Abbiamo finito tutti i liquidi. I liquidi sono... salutiamo Lucrezia per l'ottima pasta. Jennifer ha fatto una pasta della Madonna. Non piangere, tienimi chiuso dentro questa stanza. Non più giochi contro l'arroganza, lontananza del socialismo. Dici d'essere vicina, tra mezzo alle angustie in nome della vita in cui ci siamo legati, trasportaci, ma solo tu. Un non di fumo tra una nebbia di teorie, terra fuori di ciarle e di calunnie, come una porta sul mondo e una porta sul mare e una porta sulla Georgia, Amleti. Tu sei il paese dove le donne di Putville non piangono prima del tempo come i purpuri. E con tutta la verità io le rendo felici. E ad essa non occorre distoglierne lo sguardo. Dove respirano l'una accanto all'altra i ganci della passione non scricchiano e non danno un residuo di frazioni per sventura delle madri e dei bambini. Dove io non ricevo alcun resto in vita spicciola dall'esistenza, ma segno solo ciò che spendo, e spendo tutto quello che conosco. Dove la voce è mandata a rincorrere una novità indistruttibile, con l'esultanza del mio bambino, mi fa eco dalla vena. Qui sarà tutto. Ciò che ho vissuto nel presagio, nella realtà, qualcosa non sono vero. E ciò per cui fratissimo, tu sei ancora qui. E mi hanno detto dove sei adesso e dove sarai alle 5. Io ti potrei trovare nel corso piuttosto che ciarlare in vano. Ascolteresti ritornando giovane, grande, libero, audace, dell'uomo giunto al limite da una formica cresciuta troppo. Vi sono nell'esperienza dei grandi poeti tali tratti di naturalezza che non si può allora qua abbiamo Lello completa, che ha i baffi imparati a tutto ciò che esiste convincendosi. Invece Andrea ha i baffi e non è calvo. Donald non ha i baffi e non è neanche calvo. Sono calvo. Sei calvo? Calvo il circoncì. Nix è ebreo. Ha detto di tenere l'anonimato. Prima ha detto di non dire niente, che non c'è problema, perché se poi uniamo. Sei arrivato tardi, sei tu il quinto. Scusa, parlando tra amici, come se ci conosciamo. Sei entrato nel noi, aspettiamo il quinto da due ore e mezza, arrivi tu, sembravi il quinto. E no, poi dici, no, non sono io il quinto. C'è anche adesso c'è anche Francesco, anche lui non è calvo e non ha i baffi. Archivio, archivio. Ci dai la roba d'archivio? Archivio storico. È l'odore che sentivamo prima? Cioè, che cosa c'hai d'archivio? Che io sconto? No, io pensavo... Il castigo per entrambi! Un invecchiato! Ma scusami, adesso... Che tu sarai un invecchiato! Ma ti sembrano... Figlio del boss! Ti sembrano tre personaggi d'archivio? Quel cavolo! Non lo so! Magari io, ma loro... A incatenarmi! No, ma d'archivio! E mica più raccomandato del figlio del box, cazzo, del box. Box doppio, Bendesi in via Ferruccio 22. Prezzo regalato. Glielo regaliamo. sto cazzo di bordo. Faccio il problema a far pagare 10.000 euro. Beh, minimo, 10.000 euro un box doppio qua lo vendi a 20. In 2 secondi. Sì, anche a 20. Un box doppio in via Ferruccio, 10.000 euro, lo vendi in 2 minuti o no? Ma veramente? 5.000. 10.000 euro? Ma stai scherzando? Quanto vale? Minimo 60.000. Io spero che tutto sia di vostro gradimento. Ma ti rendi conto in che... dove siamo arrivati? Quello che dicevo. Scusate, ma è arrivato il quinto? È arrivato il quinto? Riesce a fare il foto con l'auto. Ho preso le caverne a riecheggiare in mano. Il nome tuo adorato tutto. Le scuse tranne la sua voce parlami. E continuano a costruire appartamenti poi di mega lusso. Brucia solo con furore, tornerà un altro inverno, che si porti un tablet, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutti i miei. Forse un po' di pace tornerà. Vabbè, ma dallo assieme a noi, nonostante di solito sono scemo. Chi ha dato il suo chi è tuo padre? Don Michele Corleone. Vogliamo parlare con Don Michele? L'estate che ha creato il nostro amore. Per farmi poi morire di dolore. Thank you. calda con il bacio del tutto. Si piena di un amore che è passato. Che il cuore mio vorrebbe cancellare. No, lui non è. Voglio il cameriere! Vogliamo il cameriere! Voglio la, due! La figura del cameriere, dov'è? Non l'abbiamo. Voglio il cameriere più forte adesso! Solo per conoscerla, nulla di che. andiamo a fumarci una sigaretta. No, ma sicuramente avranno delle mani. Non tutti assieme, se no cala l'audience. Cala l'audience. No, comunque devi tenere duro. Devi tenere la baracca. Permettimi di ricordare una cosa che abbiamo sentito non con l'udito. Non voglio più essere io. Il giro estraggio di dove si vista ma vivere, nel tuo cuore con Dio, ma vivere la piccola conquista, canteggiando placido, in oblio, come tuo padre, come farmacista. No, si fa uno alla volta. Io non voglio più. Una alla volta, E poi devi aspettare il cameriere. Non puoi dire che vai per primo. Guarda che ora si va. La democrazia è una cagata. No, appena va via uno di noi. Ma sentiamo via due, cazzo. No. Siamo tutti uguali. Appena va via uno di noi. Hitler era bravo. No. Ha detto di sì, di quello che volete, ragazzi. No, prima di fare quello che volete. L'ultimo arrivato è sempre quello che ha ragione. Secondo me non va bene. Rollare sta roba o no, cazzo? 2 ore che sei lì. Ma te ne posso rollare e poi appena va via uno si comincia a parlare male di quello. Ok, cameriere, dai che devo fumare la sigaretta, vieni ad accompagnare l'uscio di questo castillo. Che cameriere, che me ne dai una per caso. Cameriere, veramente. Vamos a llegar para far un toquecito de primero. Dai una da rollare. No, ma infatti Donald, tu sei bellissimo, non come bello qua, quartucciano, manco c'è una sigaretta. E che cazzo c'è? Ma te la vedi per andare su un sigarettino? Vedi l'amore, essenzialmente ci ha sorpreso stanotte, perché abbiamo una dolcissima ragazza dagli occhi blu che viene dalle terre delle Indie più feconde e reconde dell'animo umano. Questa ragazza si chiama, oddio, questa ragazza si chiama Moha. E Moha questa sera si farà volare pure di della sensazione dei sentimenti. Ma non penso bravo. Tu ti sei sbagliato. Questa ragazza ha gli occhi nocciola. Non è lei, non è pronta. Buttatevi dal terrazzo, mi assento, gentile con loro. Però ora, ragazzi, a parte le persone che sono vestite da ragazze, le altre persone sono qua. I cavalieri! No, dico proprio le persone che non sanno perché sono qua. Le persone, diciamo, casual. Se c'è qualche persona, qualche ragazzo, che vorrebbe partecipare, se qualcuno può portare un po' di tabacco e stola, può chiedere a Beatrice di procedere con le, almeno perlomeno le informazioni. Quindi io ho visto prima una ragazza vestita di blu. Cosa fai qua? Ho visto una ragazza vestita di blu. Come giochi con te? Ecco, allora tu che sei vestita di blu, la possibilità dati la possibilità di essere, ma può essere che ogni tanto uno si impegna, te che sei vestita di blu, tu sotto la regia, la regia, credo che è una prova per vedere se tutti vanno bene. Vabbè, abbiamo capito che prendiamo il tabacco a Donald oggi, perché io non ho il tabacco. Due frizioni di vita corrente, sarò un attimo ai certo soldi. Sì, dopo aver pianto tanto sulla storia, io voglio vivere un tantino felice. Domando troppo di a quanto pare. Vengo davanti a te ai parecchi giorni, ma cresce questa tua vecchia clientela della Fepro. Uomo, Elena, del tabacco. Io vago nella mia stanza e mentre tu stai prendendo il tè, in fondo alla rotonda di settembre, si è interrotta la conversazione. Nemmeno me la sento di sposarmi, sono troppo spregevole per questo, voi non siete abbastanza importanti. Andati via. Bello, uno in ritardo, anche se ci avevamo notato. ragazzi, mi dispiace. Ma adesso non vorrei mica andare a fumare una sigaretta. No. Io lo sto solo girando. Mi prendo avanti io. Nella vita io mi prendo avanti. Cioè, ti prendi avanti. Io guardo al futuro. Ti ho sposato, ma ci darei la bocca alla mia bella. Come? Serve? O balcone sta mamma d'un infatti siamo un po' pieni a signora Gallucca Guis io signora Gallucca no tu è stato posato qui appositamente poi magari lo consultiamo però allora io non sono di quando tornano gli altri due vorrei uscire a rossa quando vedo russa la vena mossa che la fa colombrina ci sono obblighi hanno detto che dobbiamo essere accompagnati. La rossa vede con russa se fa russa russa russa io russa vede che rossa se fa russa russa russa pensa ti devi per la capessa la rossa con una mossa maliziosa la rabassa hai portato un mazzo di carte? No, qui può scoppiare la rivolta se arrivano gli altri. Scopone scientifico? No, ma che carte sono? No, che carte sono queste? Posso vederle? No, certo. Tutto. Ma un po' di birra. Sei buonasera e sei buonanotte. No, io non sono capito. Se le visti sono la notte anche stasera siamo qua. Non siamo qua per noi, non siamo qua per noi. Manca tutto. Essenzialmente più del primo è stato il secondo. Che si faceva chiamare Manlio. Quello di primo. Lo scorso giugno entusiasmato folle di donne e una in particolare se l'è portata via quella ragazza se l'era seguito fin dall'anno ancora prima che era la nostra regina che aveva il ruolo di protagonista femminile nello scorso spettacolo Le Metamorfosi di Manlio il 28 giugno in Exalge qui a Milano in via Ferrucci 5. Ebbene Manlio se l'è portata via e stanotte abbiamo ricompensato con una ragazza ancora più splendida, dagli occhi nocciola, color corvino, che viene dalle Indie, più lontane, più recondite, giustamente dall'Iran. Abbiamo qua la regina delle sette ma tu sei il sesto commentatore. Allora, a tra poco vi dico la sorpresa speciale che abbiamo qua. Il tuo apparato. Ma infatti non ti riconosco, vedi tutti quegli appicci. Sì. Ok. Ma il piatto di pasta? Allora, io faccio i panini di solito. E allora portami un panino. Però mi porterai. Non sto lavorando in questo momento. Ma quindi sei in una pausa a sigaretta come un po' tutti. Non sto lavorando, di solito lavoro da lunedì a giovedì, oggi è domenica. E quindi non sto lavorando. Quindi ti sei trovato qui di passaggio e ti sei... Sì, sono arrivato qui oggi, ho portato dei tronchi. Qua. Dei tronchi? Sì, non dei tronchi, dei tronchi. Dei tronchi, proprio cosa sono? Dei tronchi, sono delle parti di albero. Ah, dei tronchi? Sì, sì. Ho capito, scusa. Ho sentito bene. Ah, hai portato dei tronchi? Sì. Mostraci. Cioè, un camion di tronchi. Beatrice! Con la panna. Con la panna. Con la panna. Panna dimmi che la panna è 4x4. Non è 4x4. Ma è la panna quale? La scatoletta o quelle nuove? No, quella nuova. Allora fa cagare. La GPL, quello che è. Devi essere attrezzato con una panna minimo. Allora, doveva essere blu e 4x4. E se vuoi, tu devi mettere anche il parapuva di davanti. Sì, buonasera e sì, buonanotte. Sì, parapufali 4x4. Parapufali con la cosa davanti. Ma scusa, qual è la tua funzione? La mia funzione? Qua. Qual è la tua funzione? Ma tu sei un cameriere comunque. Sto interagendo con voi. Ma no, ha detto che no. Sta interagendo. Sì. Penso che no, va benissimo anche perché come vedi due sono andati via. Avevamo bisogno di interazione. Esatto. Ciao ad Andrea. Un'interazione. Penso che sarà chiaro che ora sei in ferie, no? Anche se sei milanista si sta creando un'interazione. Non sto capendo questa scena. Lo so. Cose vecchie, cose vabbè. Vecchie. Cose. Ok. Bella questa. Sì, lo ammetto. Quindi tu qui. Perché? Io qui perché ho fatto un percorso. Per arrivare qui. Vabbè, come tutti abbiamo, noi l'abbiamo fatto tutti. Devo dire che è un po' un... Sì, è ovvio che è un percorso, ti perdi qui se non hai una guida, tra l'altro. Non mi sono perso. Infatti sei arrivato a destinazione, no, però per il tuo ruolo. Possiamo andare a cena quando... Ha raggiunto lui in ritardo. Sì, no, io ho perso qualsiasi coincidenza, non sono riuscito ad arrivare in orario. Cioè, alla classica scusa milanese, ma se hai una bicicletta queste cose non io non ho una bicicletta. Ma non serve la bicicletta. No, perché fa troppo freddo la bella bicicletta. Ragazzi, io sono delicato. Mettiamo un po' di sale e andiamo a tagliare un po' di basilico da mettere sopra. Prendiamo le foglie. Come ti chiami? Vedo da tutto. Francesco. Francesco, Francesco. Piacere. Non è il primo Francesco, quello di prima si chiamava Francesco. No, facciamo un sacco di Francesco. No, io sono pacchettino. E andiamo a tagliare. Mia sorella. Sento anche sentire su. Mia sorella si chiama Francesca. Strana come cosa. Deve venire anche lei. Deve venire anche lei. Non lo so. Non credo, forse è già stata qui. Togliamo tutto quello che... No, qua non abbiamo visto. Non c'è stata nessuna Francesca. Tante c'è. Solamente perché è bello mangiarla che sia, diciamo, già pulita. O magari non ha preso delle cose. Questa bella al dente la finiremo di cuocere gli ultimi 2 minuti. Anche tu? No, la tua sorella. Ah, tua sorella. Che si chiama? Sorella gemella. Francesca. Ma non avevano molta voglia di... Aggiungiamo un po' di acqua. Inventarsi noi. Giusto per finire di ordinare la cottura. Al contrario, tutti gli hanno metà di te. Io sono a sinistra e a perché io sono destroso e lei è... Riassumendo in due parole molto semplici. Io ho imparato a capire vero? Forse anche lui un po' di basilico anche tu. E questa secondo me è la pasta che è quello che è quello che è quello io ho capito che sono arrivato in ritardo, però anche qua. Andiamo ad aggiungere. Infatti qui abbiamo bisogno di altra pizza per il nuovo commerciale. Facciamo un annuncio. Si prega la regia di approvvigionare numerose birre per Sebastiano che è a bocca asciutta. Grazie. Si prega la regia approvvigionare numerose birre per Sebastiano che è a bocca asciutta. Di gusto. Grazie. Che è unico. La pulita. Più un po' di tostatura e un po' di basilico fresco e la potremmo. Buon appetito. Bravo, stai facendo un grande errore. Ehi. Con le mani! Trenino! Ancora insieme! Arrestatelo! Ragazzi, un brindisi lo farei, anche se siamo in pochi. Rimpicco a vedere a che punto sono le birre. Sì, mi sembra giusto. Vai. Grazie a Francesco, grazie a chi ha tolto la cazzola di prima. Stiamo cercando altre birre comunque. Forse anche qualche altro commensale. Vero cameriere vogliamo. Qualcuno che ci porti un piatto di pasta, basta questo. Ragazzi, un cameriere, no, abbiamo un cameriere e un pasto per il buon Sebastian che è per via dei mezzi milanesi è arrivato in ritardo. Scusate. Forse qui abbiamo... Potete anche dire a Donald e Lello di tornare? Donald e Lello si sono persi. Molto meglio quelle luci, cazzo. Qui intanto si è fatto giorno. Eccoli! Eccoli! Ne manca uno. Come è andata la cena? Beh, devo dire abbastanza bene. A parte per Sebastian. Guarda, io vado. Comunque chi vuole un goccio di vino? Oh, devo dire che l'idea non è male. Bene, allora, chi vuole un goccio di vino, alzi la mano. Scusa, ti ho rubato il posto. Ma abbiamo alzato tanto le mani tutti. Se vuoi, anche Lello che abbiamo rubato. La donna Ricciano una volta. La donna Ricciano una volta. Eccoci qua. Oh, guarda, ti sei salvato perché qui la regia aveva messo. Imbarazzato. No. Abbiamo il cameriere. Ma c'è no, veramente il cavo corto del microfono. Manca un piatto per Sebastian. Però questo funziona meglio. Già, intanto tu che sta è arrivato. È arrivata anche la luce. Anche la vero. Anzi, vi dico di più. Che qua non te ne sei accorto. No, vi dico di più, è arrivata quando siete arrivati voi. Vero? Quando siete arrivati voi hanno acceso la luce. Avete portato la luce. Abbiamo portato la luce. E come diceva John, ho visto la luce. Vabbè, buon appetito. Buon appetito, ragazzi. No, ti voglio vedere mangiare l'insalata col cucchiaio. Ora ce la fai. Ce la fai. Credo in te. Tu non ce l'hai. Arriva, ho dato la precedenza al buon Sebastian. E io ringrazio. Che lo vedo deperito tra l'altro. Mangia, devi. Sei alto ma devi crescere. Che casino. Ma l'ha fatta? Oh, no. Oh, là. Io l'ho fatto la chiesa e nessuno l'ha portata. Sono di coccio, sono di coccio. Oh, porta voce. Ma qua mancava una lasagna, cazzo. Manca una lasagna, no, una pasta al forno e della birra. Una pasta al forno, della birra, due cinghiali con la polenta. Comunque veramente siamo al di vino rosso. Siamo nel, quasi allora, nel cuore milanese, manco un po' di polenta ci avete portato. Sebastian, la salatina è buona. Io la è un'insalata di polpo. A differenza di noi qua. Sì. Arrivate alla cameriera. Reclutati. Sì. Canta storia. Allora, è una diversa... dalle posizioni. No, chi ha ragione che un attimo, no, c'è la carta storia, ragazzi, no. No, un attimo. Io non capisco. La situazione che non ci riesce a capire. Si ferma il mondo. Cioè la... Non fermi e l'hai fermato. Si sono fermati tutti. Adesso ti fermi un attimo. Cantastorie, come ti chiami? Gentilissimo. Cantastorie? Esterne. Allora, come ti chiami? Un attimo, no, Donald, conteniamo Donald un attimo. Donald, devo partecipare alla tua lettura. Donald, cercheremo di vedere non tanto Donald, taglio il cavo del mese per mese. Ha un microfono era quello. Però di dare più che altro una visione Sebastian insieme, ha manipolato il microfono importanti che adesso vero? Sono veramente in difficoltà perché il microfono è cavo lenti, giove, ma guarda se volete però vi dirò anche quali sono io di ma lui non vuole lui vuole stare lì no pianeta lento che cambierà segno quest'anno Giove cambia dinamico ogni anno e per voi Giove cambierà quest'anno tra il la vostra dodicesima casa, quindi il segno prima del vostro, il segno dei pesci, e poi farà un breve passaggio nel vostro segno. Il tranzio di Giove sarà perché nel periodo che si chiamerà la dodicesima casa, che è esattamente all'inizio del 2022 fino al 10 maggio, e poi di nuovo dal 28 ottobre Giove transiterà nella vostra dodicesima casa. Sarà un periodo un pochino più dormiente, perché Giove in dodicesima casa porta un accenno sulla nostra vita, sulla sfera che è la nostra dodicesima casa, che governa le nostre paure, governa il nostro passato, i nostri segreti, quindi qualcosa che più che altro influenza la nostra vita interiore, e sarete infatti probabilmente chiamati in questo periodo a guardare. Ho dato 2 ore e Giove sarà problemi con i mezzi amplificati i problemi personali, dicono i tuoi, va bene? Se buonasera e se buonanotte, se le amici della notte, anche stasera siamo qua, non siamo qua per noi, non siamo qua per voi, non siamo qua per tutti. C'è stata una novità la scorsa settimana che ci ha portato a riconsiderare in parte il ruolo dell'umanità intera. Exange ci ha permesso questa notte di compiere un dream, un sogno, un Karim, un Benzema, qualcosa che va oltre l'umana comprensione. Ci abbiamo Moa, la regina delle sette veli. Ci abbiamo anche Sebastià, la regina delle sette canotte. Ci abbiamo anche Guida, la regina delle vele virtù. Ci abbiamo anche Laura, la regina delle vele donne. Ci abbiamo anche Beatrice, la regina delle regine. E ci abbiamo soprattutto Edoà, che questa noce è un diamante grezzo espresso, o meglio realizzato, questa noce vi sorprenderà. Se avete informazioni sulla virtù gallicolina, chiedete ad Alex. E questa noce ci abbiamo un amico che non vedevamo da un po', però senza dire troppe parole è qui accanto a noi. Vi ricordiamo che chi è connesso su tojunian.it può sempre trovarci anche qui in Largo Settimi o Severo 3. Le nostre magliette sono in vendita in alto a destra, cioè in alto leggermente a destra, e tra poco una performance gagliarda da parte di Jack Le Fou. A tra poco. Io sono introdotto al rimasto incantato dalle storie della ragazza. Allora, comunque una buona cena. Si è proprio meditimato, ha anche indossato gli occhiali. Giovanni, grazie mille, seguono le impronte che si arrestano nel recinto della pecora Marta. Allora, la radio si sente o non si vede? Per favore, via tutti dal palco. I camerieri portino il pubblico via dal palco. Grazie, comunicazione. Attenzione a tutte le unità. Via i camerieri dal palco. No, via il pubblico dal palco. Che i camerieri portino via il pubblico dal palco. Via, via il pubblico dal palco. Via. E vieni, troppa gente qua dietro, troppa gente qua dietro, troppa gente qua dietro. Bene, allora. Bene, bene, bene. Comunque è vero, tu sei spazzata per cantastare, io qui la storia non l'ho ancora sentita. Marta non si accorge della presenza di qualcuno dietro di lei. Spinge verso l'alto e poi verso il basso. Che cosa? Puoi rispondere un attimo, no, perché io mi sono perso. Ragazzi, ascoltatemi, ragazzi, un secondo. Vi propongo una cosa. Sapete che sono molti liberi. Siamo stati attenti e a testa. Un momento interessantissimo. Così da vedere quanto è lascia da compromesso. Eccoci qui. Oggi un altro gigante del jazz qui a casa mia. No. ti dico la verità? Donald. Donald. Gordon Becker più forte. Milo. Taxi a contrabbasso. A che fine? È uno dei grandi americani che si sono trasferiti. Ma l'opera d'arte che stiamo vedendo in questo contesto. Chi sta perso il controllo? No, c'è stato un momento dove praticamente era pieno. Se buonasera e se buonanotte, se le amici della notte anche stasera siamo qua, se abbiamo la nostra amica, se abbiamo la nostra amica Emma dalla provincia di, dalla provincia di Venezia. Allora, se abbiamo la nostra amica Emma da Portogruaro, devo chiedere un'informazione a Bea, per cortesia. Scusa, gentilmente, mi puoi passare il libro di Paperino? No, infatti anche io preferivo quello di Paperino. Il libro di Paperino. Finita la birra? Si prega un cameriere di portare altre birre. Grazie. Allora qua c'è un po' di vino. Tutte le birre sono completamente sicure. Questo è il manuale della Bocconi. Consiglio dei Paperoni, grazie. Carino, carino. Cioè alla sera Ricciardo. Grazie. Enrico pantalone, bella la maglietta. Enrico 2 vuoi vino? Enrico 3 vino buono. Maglietta di un tatuatore romano. Perché non 3? Roberto. Perché non 3? Hai tatuaggi? Non so. Perché sempre? Vabbè, salute! Salute! A noi come tanto dopo le 6:30. Salute, salute! Ma tu sei la bugia! Ma davvero? Ti dico l'ultimo? Io dico gli abusivi! Enrico! Non fare il filo ad Alessia e Brito! Enrico! Ci ha abbandonato! È entrata Alessia! Mi chiamo Esther si chiama, ma io credo che lei in realtà sia travestita, allora, perché lei è quel... Allora, silenzio tutti! Come ti chiami? Ma ti ho detto prima, come ti chiami? Mi hai detto Alessia? No, no, ho detto Esther! Esther! Però ragazzi, qui abbiamo Esther, la nostra cantastorie. Comunque, ritorniamo di un cazzo un po' Enrico! Cazzo, tu devi guardare la tavola, non devi parlare con lei! Io proporrei... Enrico! Io... Attenzione, apro un barattolo! Cosa abbiamo? Gli dadi! Questo è un gioco. Bello, bello, bello. Pesca un dado. Uno è partito 7. Bel 7. Tu, Andrea, il numero preferito? Andrea, hai il numero preferito? Un libro preferito. Un numero, un numero. Scusa, tienimi il microfono che devo fare. Quindi il title non è che non ha senso. Ha senso. Facciamo spazio per la capriola di... Che cazzo vuol dire? Devi fare una capriola. Detto con la pende, sono stupende. Ma io che fa fare una capriola con la bocca? Sono anche comodo. Secondo me devi dire una parola che ti si freccia la lingua. La scarpa non ho col dito separato. Ma ha detto che devo fare una capriola con la bocca. Secondo me devi dire una. No, devi dire una parola che ti si freccia la lingua. Anzi. Sì, ma. Ah, ok, devi dire una parola e dire la cosa opposta si raffiera. Giusto? Cioè, ma non me lo puoi dire adesso che siamo stravolti? Dove è? Stavate, abbiamo bevuto birra. Ragazzi, mi chiamano dalla regia, io vi devo salutare un saluto. Adesso torno su. Sì, torna che l'insalata si raffredda. Allora... Donald... Ci siamo, attenzione. Non ci siamo. Ci sono. Alessia ha incannato le scale. Doveva aspetto la candela, ha avuto allora si dice aspetto la candela, si dice buonasera. Allora qua, ma sapevi che se tu accendi la sigaretta su una candela, porca puttana, vedi che stava accadendo? Tutto ok, Sebastian? Quello non è un muro. No, è che non è un muro. Però non hai cantato una storia, Esther. Ma gli hai sputato nel fiato. State lì, proviamo a cantarla noi. Non eri qua, non eri qua. Allora, è sputato nel piatto. Credevi se ne fosse andato indispettito perché gli ha sputato una bella sputata nell'insalata di porco. Ti dico, lo farò saprei. Stasera. Allora, ci sono norme di sicurezza. Proprio ritardato. Che no, perché si stava ammazzando. Allora, perché non sento una mazza. Ma era stato avvertito. Era stato avvertito. No, ci serve qualcosa, allora, ragazzi. Ma guarda, io devo dire che ora, per il momento siamo a posto. Allora, a posto. Questo non è un salotto. Però, allora, io ti voglio vedere, lo sai, però... dopo tanto tempo. Facciamo... Scarpa non l'ho visto. Ma il brindisi l'abbiamo fatto. Ha il suo perché. No, il brindisi... Vabbè, allora un brindisi. Un brindisi. L'incertezza facciamo di altro. Poi succederà il bicchiere dove c'è la Io tre ce l'ho, ce l'ho. Qual è? Donald. Tre quarti d'ora di brindisi. Donald, vai un brindisi, cazzo, dove vai? Donald, porca puttana. Aspetta, Enrico, vai un altro brindisi. Dove vai che bevi? Vai, una brindisi. Salute, cazzo. Smetti di brindare, bevi, porca puttana. C'era una volta un Donald che... Sono le norme di sicurezza anche te. Allora, proviamo il microfono numero 4. Momento segno. Prova, prova. Come va il microfono del nostro nuovo commensale che prima era il cameriere? Comunque. Funziona molto bene. È diventato il nostro commensale. Hai una prova col microfono gelato. Si chiama nome. Prova, prova. Prova, prova. Ti chiami prova, prova. Abbiamo il nuovo commensale. Presentati. Che si chiama prova, prova. Sapere lo stato di gradimento dei miei commensali. L'insalata di polipo era ottimo. Bene. Bello, freddo, appena pescato. Era polipo ottimo. Anche per te, Rico? Era polipo del anche naviglio. Per te. Era polipo del naviglio. No, ma infatti è la prima volta che lo sciale. Del naviglio pavese. Naviglio annegato. No, ma infatti guarda, devo dire. Tra porta ticinese. Ma infatti è un polpo strano perché sa molto di carne. Per un'ora d'amore non so cosa si prende questo retrogusto. Vi offendete se io vado un attimo a fumare? No, no, vai a fare. Per un'ora d'amore non so cosa si anche io. Certo. Allora allora, i commensali hanno smesso di parlarsi. Lo dobbiamo lasciare tutti il tavolo. Sì. Suona il basso. Prova, prova, prova. Non conosci il dottor Zivago. Suona il basso giamaicano. Ascolta, col microfono. Tu a destra e io una bella legnata. Senti. Però guarda, no, guarda il lato positivo. Da oggi lo so. Non so perché mi è venuto in mente il dottor Zivago. Forse perché ho sentito il violino suonare. Ho sentito anche il dottor Ziccano. Però Ziccano. Violino Ziccano. Suonava il violino. Zigrino. Chiaro che cazzo suonava le batterie, cazzo. Il dottor Zivago, dico. Dottor Zivago? Dottor Zivago suonava la batteria. Il violino. Suonava il violino. Il dottor Zivago suonava il violino. Certo, io l'ho letto. Non lo so, non ci mettono mai. Ma guarda, io lo dico, io trovo fuori luogo. Però suonava il violino. Suonato lui questo violino. Però è un grande romanzo. Ma guarda, ti dico la verità, anche mi sono avvicinato alla lettura d'arte. Io non ho neanche la televisione. No, io manco. Ho visto anche il film. Ci sono avvicinato. È meglio il libro. Per tanti anni Ho era dimenticato qua il cappello. Sì che tanto va bene. No, ma vabbè, io leggo ma di tutto, dalla politica, biografie, romanzi. Io i romanzi non ce la faccio leggere. Io però con sta roba qua, ragazzi, se voglia di muovervi, ballare, va a far culo sto vuoi ballare? Puoi ballare su roba qua e devo muovere. Enrico, si è spento da solo. Enrico, i microfoni non si spengono. Enrico, va bene andare a fumare, fuori a fumare. Va bene andarti a fumare quello che sappiamo noi, ma non devi spegnere il microfono. Ah, attenzione. Una nuova cameriera. Quella, una nuova cameriera. Va bene. Ci dica. Come vuoi ballare? Puoi farlo. L'insalata non è piaciuta, vedo. L'insalata no, non è piaciuta. Non ho capito. L'insalata non è piaciuta. Io volevo vuoi altra pasta? No, basta. Molto vuoi il dessert? Ormai andiamo ad Arcole. Il dessert? Scegli un altro dessert. Dessert può stare bene. Quanti dessert desiderano la tavola, signori? Magari dopo anche un caffè, non so loro. Allora, prendiamo il vino. Io no, mangiamo il vino. Vedete voi? Il vino. Sì, no, ma dico un caffè. Ma no, ti faccio un grappino. Allora, caffè con grappino. Quark confinamento della carica di colore principio di espulsione di Paolo numero 4 momento angolare orbitale dopo il vino e tiro Giana piano di eliminazione abbiamo doppio doppio pendolo metodo della rigidezza metodo degli elementi è finita aria la mamma conte di tacco a manarro scusate però portare un altro po' di corpi teoria del caos stagirato ho capito azione di Barriere, scia, scritto, algebra, algebra, divana, quaternioni, gruppetta, e speciale, amore, perde, navigazione complessa, immaginaria, complessa, compressione multimediale, rallentamento di compressione, vuole, ardita di emozioni, fobia, e Ulisse questo. Guarda lui! Metto, forza, brutta bomba, calcolatore, Alan Turing, meccanica quantistica, principio di determinazione di algebra, Popper, Natasha, Dorato! Ma che stai leggendo? Rivoluzione comunista, guerra fredda, corsa allo spazio, sistema no, solare, no. Cose la galassia, supermasso di galassie, complesso di superammassi di pesci. Fermati! Donald! Non apriamo questi capitoli! Cazzo sta succedendo? Ma no, niente, proprio niente. Io non credo a nulla, yeah. Leggo ciò che mi danno da leggere. Yeah. Bene. Cos'è, cos'è, cos'è? Ha detto leggo ciò che mi danno da leggere. Vabbè, ma che cazzo fai? Quello che ti danno da leggere leggi. Ma fammi sì. Vedere un attimo. No, no, no, no, no, no. Come no? No, no, Madonna, è molto delicato. Cazzo. No. Porco Dio, che cazzo è quella roba lì? No, no, no, no, non si può toccare. No. Lo leggo io. La Madonna. Ascolta, stai zitto, no. Infatti, ascoltiamo la Madonna. È un grande consiglio. Abbozzo 10,91, abbranzatura 906, abducente. Nervo 646, 19,91, abduttore, 19,91, abitudine. 578-80 obolazione 10,91 aborto 347-51 abituale 349 completo 348-49 incompleto 348 tubarico 332 scusa abrasione 870 10,91 acalasia 16769 acaro vorrei anch'io un po' di vino grazie mille no, grazie a te grazie a te la donna mi sono sbrodolato tutto alza il bicchiere lì dai. Mi prendo la libertà di cambiare pagina e sfogliare questo libro. Io avevo un bicchiere. Sebastian, dov'è il tuo bicchiere? Credo sia questo. Se non è questo, deve fare una ragione. Cazzo, deve portarlo. Allora, adesso che hai letto, si può sapere sì. Che cos'è? Non lo so. No, guarda, sta scritto lì davanti. Nodi di nodi. Bisogna capire come? Tutto. Nodi di nodi. Nodi di nodi. Nodi di nodi. E chi l'ha fatto? Chi è l'autore? Chi l'ha scritto? Che cosa sono? Poesie? Sì, sono... Lo scrittore si chiama Exalge 2021. non, è un nome un po' strano. In no, credo che secondo me quello è il nome, quello è l'editore. Ah, ok, scusate ragazzi, io non ci capisco secondo molto. Secondo me se tu apri la prima pagina, sulla prima facciata c'è scritto qualcosa. La prima facciata è bianca. Come? Bianca. Bianca. No, non è nome, non è nome. È proprio bianca o pianta? No, no, no, ma posso no, no. Dire, la poesia. Pianta? Ah, è una pagina bianca. Bianca. La seconda? Cioè, non sto capendo. È una poesia bianca. Oh, attenzione, ogni desiderio qui è esaudito. Guarda che è arrivato lì. La pianta. Lui è un pezzolino. C'è alta, chiedere è volere. La canzoncina. C'è la pianta. Una canzoncina per favore. C'è alta, tanta. Una canzoncina. Se buona la pianta che vorrebbe dire qualcosa il nostro caro amico. Stavo che si parlava della pianta. Della pianta che è buona e c'è alta e c'è tanta. Non mi piace la musica però. Come? Non mi piace la musica. Per favore un appello. La sì, della musica un po' più tranquilla, per favore. No. Il caro Sebastian non riesce a leggere con queste tonalità. Franco, c'è da spostare il carrello in corsia 3, grazie. La cassa 1 aperta. Il nostro caro amico qui. Ci provo. Che hanno abbassato. E finalmente il nulla. Vai con Lucio. Un bianco ardente che diventa pian piano nero. Il lampeggiare confonde la sabbia con il cielo. È un deserto familiare vegetato da allucinazioni, osi di vita passata. Però, che si è quello che sta accadendo la sete, lo scorpione, la fame, la jeep incidentata. Penso a quali tra anima questi fenomeni mi sdraia sabbia anima in bocca. Non ha già più importanza. Tempesta gialla, viaggio in Africa. Per amore. No, quella un viaggio d'amore paella. Bene, bene, bene. La vita come la paella la vedono, è come spagnola la compri, e bene. La paella. Quello io ho mai messo il fagioli alla paella. Che finisce no, mai. No, no, infatti io sono diceva Sense della provincia di Padova. Se buonasera e se buonanotte. Buonasera, buonanotte anche stasera siamo cosa, qua. Cosa posso fare una non richiesta? Siamo qua per noi, non siamo qua per voi, non siamo qua per tutti. Essenzialmente più cool del French abbiamo il dottor Magazine. Ma allora si può, ragazzi. Allora vale tutto. Rivoluzione. Allora se hippie. Tu sei hippie. Il dottor Zegheli della rivista da Paolo. Ragione. Buonasera dottore. Ma che cazzo vuoi? Ora per mi cazzo. Buonasera. Sei invidioso. Bene, ragazzi, qua c'è una rivolta. Abbiamo buttato giù il muro della legge. Bene, dottore. Allora, essenzialmente allora. Mi sono abbastanza sorpreso. È così che questa noce diventa una delle personalità più recondite della provincia di Abruzzo. Ma infatti, dove sei stato? Tu non hai loro fumato una e io avrei una domanda da fargli. Enrico, dici la verità che ha fatto un piccolo dottore, buonasera. Piace dica tutto, fare l'opera d'arte in questo contesto. Però ci scrivono che non ci sentono. Come fa a sapere che sono della Bruzzo? Allora dottore, però, sono domande che ci scrive Elisabetta però, dalla provincia di Torino, Genova, e ci dice dottore Zagheli, buonasera, mi presento, sono Elisabetta e avrei bisogno di una consulenza terapeutica, nel senso che avrei più piacere a stare qua con voi. Mi dicono che lei scrive da circa 10-15 anni su una delle esperienze più cool del friend destinate alle Indie, recondite. Noi la regina delle sette veli che ci chiede, ma lei nella vita cos'è che desiderava fare di più? Veramente, mi sto commuovendo. Non ho capito, mi puoi ripetere la domanda? Non ho capito. Tabacchino. Che cosa è il teatro? Buonasera. E gli amici che stasera siamo qua, direttamente dai più cool di Florence, Bono e Causa Gherino, che risponde a uno dei questi più cool del teatro. Si scrive in dire ad essere contenta come un opera, sporcaccioni suoi, a quella scata alla bocca, non poteva venire che così, dopo aver frugato senza meta ad alcuno della mia biblioteca. Povera, povera ragazza, così magra e così eroica, così violata e così modesta, ma pazienza. Lo sfacello. Domani quel cafone di forte braccio ne avrebbe fatto la sua madre, quello è un turco in faccende del genere, e lei ne sarebbe morta di vergogna. La conosco, l'ho ammaestrata io, ne sarebbe morta, lasciandosi alle spalle lo stai fruttando me a livello, mentre invece così, grazie a me. Povera Ofelia, miracolo! miracolo. L'arte tanto grande. No, ho letto la miracolo. Vuole fare lo scrittore. Con gli occhiali non vedo più nulla. Il miracolo. Che non è tutta una cosa che incontra. Piovo, no. Senta, dottore, allora. Basta bere. Io so che probabilmente lei sta tornando. Vogliamo dell'acqua solo per detto. Le prego, mi faccia questa cortesia. C'è un favorino da fare. E lei, dai medico, qual è? Ha detto, va bene. Purché non mi si chieda che cosa voglio fare nella vita. Ebbene. Allora. Non comprendo questa parola. Sinceramente, lei da bambino, dentro quei 6-7 anni, che guardava i suoi tramonti, quando desiderava qualcosa di più della vita, quando diceva che l'amore per la virtù, cosa rispondeva? Voi dovreste scrivere, è arrivato Francesco incazzato, vorrei scrivere. Vediamo che ha la faccia incazzato. Bene, bene. E di che parlerebbe questo romanzo? Che personaggio, cazzo toccato quel faro. Bene, bene, bene, bene, bene. Ma soprattutto, il suo colore preferito. Avrei dovuto spaccarle gli orecchie. Facilmente il grigio. Devo badare un istinto. Bene, bene. Che peccato. Abbiamo scoperto. Dieci anni della mia vita sei riuscita, Dio non parla, a giudicare, dunque Dio non esiste, oppure sono io che non ho 10 anni da vivere, la prima ipotesi mi sembra la più grande, non c'è che dire. Lorenzo, sai che devo declamare lo Lorenzo, testo tragico. Guarda, Lorenzo! Enrico! Lorenzo! No! Enrico! Ifigenia! Ifigenia in aulide! Donald! Donald! No, perché quando sento queste note non faccio che pensare a Wendy Carlos! E tipo! Con lui vicino! Non posso che pensare a Wendy Carlos! Era la morte! Era Walter Carlos! Avrai tu! Quando l'ho andata insieme a tu, Brin! Sei il nostro grande. Allora se abbiamo Edoardo, tolto le parole di bocca, trascendente sagittario, io ce l'ho quell'album lì, certo altro Edoardo che è qua con noi, e ne avevamo chiesto una piccola informazione. Saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Tu che dicevo che li cagate, come così rivedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi. Ma io non ne sono arrivato, non ti volevo interrompere, hai capito? Oh cara speranza, ma dove vai a ballare? No, dove vai a ballare qua? Ma non è mica di discoteca, cazzo. Vai a ballare, se sei viva, dov'è il nodo? Se vai a ballare, la morte ha uno sguardo. Non stava facendo lui, vedrà il tuo. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo. Come che si chiamava il libro? Note di note, noti di noti. Certo che stiamo fornendo una nuova libro Not to Not i nostri caduti legato si vogliamo dare un gioco la protezione civile in tornare andati con la scuola lì era tutto l'altro è portato lì Ho provato a cambiare le cose della letteratura. Io ho scritto 11 romanzi con quello scelto. E il libro sarà stato rifiutato. La fattoria dove ragazzi. godo dell'esperienza della televisione molto format group e quando mi invitano io ci vado sempre. Mi sporco le mani, io sperimento, provo, io non penso alla vita per la snob. Senti un po', stai dicendo che un romanziere impegnato ha una sorta di vantaggio, diciamo, di salvacondotto rispetto al romanziere che si occupa di i sentimenti, ma certo, la causa della crisi che nella propria vita non si sondare, metti l'importanza di costruire una famiglia, di dedicarsi con sacrificio e impegno quotidianamente all'educazione dei ragazzi. Io e Eusebio abbiamo quattro figli, facciamo insieme un percorso, progettiamo, e faccio i sentimentali per essere madre e donna, alla fine della giornata sento che sono stata utile, ho fatto qualcosa di interessante, di importante. E noi invece che non abbiamo figli, secondo te dovremmo accarezzare l'idea del suicidio? Ma vogliamo vedere che parla di me. Ma lo sai, Cristino? Tu sai cosa sta facendo? Usi cazzuto in uno dei tuoi 12 romanzi. Sì, uso la parola cazzuta nei miei romanzi, ci provo ad essere moderna. La modernità cazzuta. De gusti, quante certezze ti fanno. Non so se mi piace trovare una forma di ribrezzo. Sì, ho delle certezze. Ho 53 anni. Portati benissimo. Ho 53 anni, ho sofferto, mi sono rialzata e adesso ho imparato molte cose nella vita. Perché? Bene, vedo che mi arrivate di ti sei trovato bene con noi, no? Stefano, non lo dibattiamo perché ci vogliamo bene, non vogliamo mettere in imbarazzo. Sono tutte queste fanterie, questa ostentazione seriosa di io. Questi giudizi disprezzanti tagliati con la cerca, ma non è una natura opportunità, non è una natura. Conosciamo anche le nostre, ma non loro per questa differenza è tua. Veniamo per quella di farvi calcio, nessuno di loro proprio perché non abbiamo nessuna intenzione di misurarci con le nostre possibilità. Ma di che menzogna stai parlando? Tutto quello che hai detto è vero, è come sono, è quello in cui credo. Non devi essere un genitore, non mi fai parlare l'unica certezza che ho. No. Adesso tu per favore mi dici quali sarebbero le mie menzogne e le mie fragilità. Eh? Io sono una donna con le fragilità, no? Bello! Siete? Parlo con le mie qualsiasi cittadine. In ordine spazio. La sua vocazione civile tanto che non si lancia la ricorda a nessuno. Non è che ti ricordano personalmente un altro. Io ero messo. Sono arrivati due romani. La storia ufficiale del capitolo ha scritto che per anni sei stata la madre del capo, infatti si fu un'indicizione, ma non si è stato un figlio per la giornata. Buongiorno a tutti, si presenta. Lo dicono tutti, questo è un che ha finito la mia vita, ma questo no, ti paventa, per me adesso potrebbe funzionare. Qua! Che cazzo! Quanti cazzo! un po' di erba. Allora, le costoline, abbiamo delle capre, abbiamo un giorno di erba. Una certa, c'è un altro pollo insalato. Pronto, pronto. Che però si è subito equalizzata attraverso i carallucci. È inutile che nascottete, prima del lavoratore. Invece ci hanno dato molta amarezza. Ma che confusione c'è di questa? Ragazzi, qua presentatevi Brad. I nomi sono se non ci fosse stato allora, il polpo del Naviglio. Sì, buonasera. E leggere fiabe, Francesco, leggere fiabe. Poi abbiamo quindi, certo, la rucola Lorenzo. Guarda, il microfono sono loro quando va e quando vai. Sassa, prova. E quindi vogliamo raccontare una storia. Vedi che va. Allora. No, dici Francesco. Cosa stai pensando di produrre? Tu porti una banalità, hai detto. Sì, però. Assolutamente senza pregiudizio, ma io mi rivolgo alla regia. Mi rivolgo alla regia e chiedo. Era un giudizio assolutamente. Andiamo alla caratura per poter scrivere. Ragazzi, qua vogliamo piangere con questa colonna sonora. Dici qualcosa che ci fa piangere, Lorenzo. Vuoi sentire una storia che fa piangere? Facci piangere. Dai, facci piangere. Vogliamo raccontare una storia molto. Ehi, però devi andare a vedere, abbassare la musica che date la voce a Lorenzo. Lorenzo, vogliamo sentire una storia fastidiosa, che ci fa piacere. Una storia che fa piacere. Allora oggi raccontiamo una storia molto naturale che ci aiuta a capire che è la quotidianità. Oggi saremo anguille. Dove? Oggi saremo delle anguille. Anguille. Allora noi come anguille quel giorno ci svegliamo. Adesso facciamo vedere di spavo la nostra vita. Andiamo in giro per le mani. Ma tu mi inviti a nozze. Non ti dico che sei. Certo. Ma tu conosci senz'altro la poesia di Montale sulle anguille. Guarda, ne ho. Allora declamala. Ma certo. Facci questa poesia. Del Montale un bel giorno si svegliava nella valle ferrarese. No, non è così. Non è purtroppo così. Non era degno. Correva fino a cercare il mar del Sargasso. Questo è un accento poetico, ma non è così. No, siamo d'accordo che non è così, però arriva il mar del Sargasso. No, perché è una poesia piuttosto lunga. Vedi cosa dice Montale? L'anguilla, la sirena dei mari freddi, che lascia il Baltico per giungere ai nostri mari, ai nostri estuari, ai fiumi, che risale in profondo sotto la piena avversa di ramo in ramo e poi di cappello in cappello, assottigliati sempre più dentro, sempre più nel cuore del macigno, filtrando fra gioielli di melma, finché un giorno una luce scoccata dai castagni ne accende il guizzo in pozze d'acqua morta. Cyborg che declinano dai balzi dell'Appennino alla Romagna. L'anguilla, torcia, frusta, freccia d'amore in terra, che solo i nostri botri quasi rendiamo conto, i botri, una cazzo a volte quando dici speriamo che internet ruscelli, faccia un casino. Pirenai ci riconducono a paradisi di fecondazione, l'anima verde che cerca vita là dove solo morte, l'arsura e la desolazione, la scintilla che dice tutto comincia, Lorenzo, quando tutto pare che cazzo hai combinato? Ronco, Lorenzo ha combinato un casino. Ma tu non la conosci? No, per la Madonna, non mi tocca. Non la conosci, ma non puoi dire. L'anguilla, la poesia dell'anguilla, ma io sono uno squalo. Ma io sono più squalo. Assassino, no, perdonatemi, ma io non so cosa vuol dire. Sì, buonasera, sì, buonanotte, se devi dire notte, anche stasera siamo qua. Comunque volevo non siamo qua per voi, non siamo qua per noi. Se qualcuno, siamo sono libero. Essenzialmente più cool del più cool del Friense, abbiamo Magabondo, il mago di Bordeaux, e ci scrive direttamente. Prego, prego, Carmelo Bene, te ne sarebbe grato, te ne sarebbe grato. Anche Carla Faracci, sognavo, potrebbe essere onorata a essere qui con noi. Invece nella nebbia dell'alto, è un falso diverso. Invece non era quello che pensavo io, era solo un scherzo. Beh, facciamo lo scherzo. No, cioè veramente, visto che non c'è altro, dobbiamo fare un guai, proprio per stare leggeri. Però io vorrei, in sala non c'è qualcuno che pensa a noi qua in questo angolo. Che dica, ragazzi. Ragazzi, se aveva un carciofolo, pensate, non ti proponete a noi, tu che ancora con le poesie, ma che cazzo hai fatto? Lorenzo, devo fare un annuncio, è arrivato il nuovo commensale qua che abbiamo ospitato Lorenzo, mi ha acceso Enrico con le poesie, cazzo non ne possiamo più. Dov'è Donald? Donald l'abbiamo perso. Donald, scusa, mi stai schiacciando il cavo del microfono. Mi schiaccia il cavo del microfono, vuoi fare il selfie? Chiedono un selfie. Se mi schiaccia il microfono. Chiedono un selfie, dopo, penso che ci sia un fotografo qua. Guarda che ormai questo microfono è entrato nel cervello. Cioè c'è un videomaker. Provochi dolori in me. Cioè, stanno proponendo un testo tecnico. In prosa, tecnico del suono. In testo. I microfoni sono corti. È uomo con la tuta arancione e fosforescente. Oh, buonasera. Ciao. Tolgo il cappello che è da strozzo. Un nuovo commensale. Ma cazzo, arrivano commensali. È tutta la sera che speravo di sedermi qua con lui. Sì. Il Don è andato a parlare di te. L'abbiamo perso. Ragazzi, riportateci Donald, che magari è burlato. Andatevene tutti. È fuori che discute. Il tatuato. Ma tu chi sei? Lorenzo. Io sono io. Devo identificare. Sto dando la mano. Piacere, Lorenzo. Quindi. No, lui non è che ci fa. Lui no. Mi uccidi. Mi uccide con il fascio di luce. Va bene, allora. Prima di Boris avevo sopportato la soglia lumine in modo abbastanza storico. Un fazzoletto? Senza rendermene conto di quanto fosse assoluta. E credo che se uno solo di noi avesse avuto una famiglia quasi normale, se avessimo dovuto obbedire a orari, a regole e fare i compiti, e se fossimo stati sottili di controllo da parte degli adulti, non saremmo diventati così inseparabili. E wow, con questo passa sta cazzo di roba Lello, e facciamo finta. Lello, hai mangiato una di queste caramelle? No. Provale. Sono dei dadi. Ma sono dei dadi. Oddio. Scusa Lorenzo, non ti ho sentito? Noi siamo Gigi Spade. Grazie, anche se ci siamo persi Donald, che ha detto che vado a fare due salti, ha fatto due salti nel burrone. Donald, ma dove cazzo sei finito? Donald, fatti vivo, rispondi. Donald, arriviamo. Donald, prendete Donald fuori che sta discutendo. Donald. Allora, grazie Lorenzo, ciao, buona serata. Ciao. Cosa ti chiedo? Ti ho fatto piangere. Anche se Lorenzo ha acceso Enrico nelle poesie che non sapevamo più cosa come spegnerlo. Grazie Lorenzo, è stato un piacere. Ciao Lore, ciao. Allora, ciao. Chi è che legge l'altra parte qua, che è interessante? Che libro è? Il cardellino di Donna Tartt. Io penso tranquillo. Che tu lo conosca questo finché, testo certo. Fondamentale. Finché è arrivato il falco. Quando è arrivato il falco? Si è mangiato il cardellino. Molto poco per è il testo fondante. Cosa non ti chiedo? Vieni, vieni, vieni, nostra musa, vieni. No, vabbè, vorrei dire. Cosa non prima di chiedo? Boris. No, questo l'ho letto io adesso. Domande illegali. No, scusate, cambio un attimo. Avete parlato della solitudine? Perché... Vabbè, sei tu che mi hai passato la tua pagina. Cosa ne pensi di chi ti ha messo al mondo? Pronto? Dopo Giovanni, tiralo fuori. Un appello a Giovanni. Tiralo fuori, non Madonna, doveva esserci anche il dolce. Tiralo fuori così. Guardarlo. E vabbè, ma in pubblico. Erano cose che non facevano al cuore leggero. Esatto, che è quello che ti si possono leggere. Anche se io funzioni. Prova. Di difendere. Può essere pericoloso. Come ti chiami? Come di una bellezza. Ha parlato certo Alexei, eccolo. Fai la dopo averlo ciao Alexei, che cosa fai qui stasera? Lo spettatore, benvenuto. Qual è la tua funzione? Qual è la tua che brivido intenso. No, mi devi spiegare. Ma lui che cazzo fa con la telecamera? Che cosa fa lui con la telecamera? Come ti immagini un'orca? Per la Madonna, che brividi! Mi trovavo alla mano. Come ti immagini un'orca? Un orco remino. Ah no, andata morta. Grande. Sanno pure perché prenotare un tavolo al ristorante è sbagliato. E nessuno ha servito l'ospite comunque, devo dire. Ascolta, Lorenzo, porca troia, bicchiere per Lorenzo. Bicchiere per Lorenzo. Dov'è? Bicchiere per Lorenzo. Va bene, lui. Cazzo, anche tu vedi che prendi i bicchieri da mezzolino. Sì, anche lui si chiama Lorenzo. Va bene, ma tutti Lorenzo, allora. Neanch'io. Prima Lorenzo, lui che ce lo sa. Grazie, caro. Marco. Alexei. Cosa ti chiedo? Alexei. Quello. Allora, il videomaker però io non vorrei essere inquadrato. Aspetta un attimo. Videomaker. Aspetta Fammi torce. Io ti menziono. Salute, un brindisi. Caro. Vai. Cazzo, dove è andato Lorenzo? Lorenzo, il brindisi. Oh, Lorenzo. Brindisi. Ha finito. Non è Lorenzo, è Alexei. ABC. Porca puttana con sei nuovi. Caro. Pasta e fagioli e asparagi uova. Ha finito. Dimmi. Guarda cosa sono tutto male. D'accordo, guardo tutto male. Che oggi è domenica. Ma scusa, era domenica. Ma quella roba lì me l'avevi passata. Un avido combattimento in fiamme al largo dei bastioni. Gentilmente ragazzi, non distruggiamo il... E ho visto che non è arrivato nessun non distruggiamo. Regalo. Cosa ti chiedo? Scusa, dalla regia. Cosa ti chiedo? Il dolce? Questo inizialmente era il tiramisù. Il dolce è cosa una dolce? Categoria. Allora, qua la sala del vero dolce, amaro e ammazza caffè. Avevamo parlato nella nostra quasi un'ora fa di dolce, caffè e ammazza caffè. Dolce caffè. È colmo di dolce. Non abbiamo visto nulla. Anzi, abbiamo cambiato anche il commensale. Lello. Perché il signore... È dolce. Donald si è perso. Lello è dolce. Cazzo, Lello Donald, donna l'olivo. Andrea è dolce. Tempo. della dolcezza. È una fattispecie. Allora, il dolce è una fattispecie. Guarda, per i dolci mi hanno sempre appesantito. Molestato. Perché proprio a me. Un bel tiramisù. A me i dolci mi hanno sempre appesantito, quindi perché proprio preferisco il dolce. Sì, un caffè amaro con dolce, dov'è? Bravo, bravo. Regista. Perché? Videomaker. Scusa, come ti chiami? Perché? Ti ricordo. Luca. Ciao Luca, il nuovo... No, un altro Lorenzo. Enrico comunque mi prende tutti per il culo. Luca, come quanti caffè? Uno, due, tre. No, io il caffè mai. Non ho capito. Minchia, due caffè. Due grappe, due caffè. L'amaro, l'amaro, la grappa. Allora, io ho due... tre grappe. Quattro grappe, allora, quattro, cinque grappe. Cinque grappe, una bottiglia di vodka, anche il dolcetto se c'è va bene. È tornato Donald. Mica ok, ok, il pubblico in sala è tornato tra noi dopo che si è perso. Donald, non sappiamo Donald, Donald. Non sappiamo che cazzo è andato a fare senza dire niente agli amici. Io abolirei l'uso del torpilocchio in questa serata. Donald, siete tutti troppo blasfemi. Donald. Nomi non serve. E tutti troppo volgari. Donald! Mi state sul cazzo. Raccontaci il tuo viaggio. Ma voglio dire una sei cosa. Sei stato assente per tanto tempo, hai molto da raccontare. Sei andato via da solo, hai fatto quello che hai fatto, non hai chiamato gli amici, hai con noi allora, delle persone. Allora, o ti porti quello che io abbiamo Andrea, sentito prima col naso. Io e Andrea abbiamo, abbiamo sollecitato. Ti piace ripeterti. Ah vabbè, hai capito. Guarda che cosa tocchi dietro lì? Perché ti piace ripeterti? Guarda che hai il naso. Guarda, balla, ma non sta ballando. Ascolta, guarda che Donald, guarda che c'è il padre bianco. Donald, Donald, puliciti il naso. Donald, ricominciamo. Donald, mi sono assentato per un po' di tempo. C'è una linea bianca. Mi sono assentato un po' di tempo perché non farti fare figure di merda. Mi sono brullato la sigaretta. Pulisciti il naso. Nel tragitto che mi portava all'esterno, ho incontrato una ragazza con qualche peluccio di barba così. E allora vuol dire che ti sei allontanato. Mi sono una deriva competitiva. Ti è piaciuto? E lui mi ha detto. Ho sentito la competizione. Io ce l'ho più lungo del tuo. È stato felice. E gli ho detto, guarda, è impossibile. È impossibile. Allora con questo che hai detto, devo dire che hai detto una gran cazzata. Come si chiamava? Giulia. Si chiamava Lorenzo. Samuele. Si chiamava Lorenzo. E da dove arrivava? Quando l'abbiamo tirato fuori era fatta. Sì, è fatta. E allora Filippo, ma non sto male. Non si riusciva a decretare il vincitore. E quindi stavolta faccio un numero, la pizza è inutile, perché già sai che gli hai dato del lei a lei, già solo 80 anni, eccoli, carissimi, Lello, Lello, quello che dico io, quello che dico io, quello che io. Io però tutte queste regole alla radio Biagi, non le ho mai avuto molto carico il dottor Vyacheslav, cioè qui il tecnico luce è diventato il capo mastro. Ti fa il video, ti fa il video. Io ti seguo labiale, tu parla con lui, io ti seguo labiale. Chiedono... A me il filmmaker maestro molesta, Filippo. Vorremmo ballare, io parla. Filippo, ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Ma dirigente, guarda lui! Dov'è il dirigente? Filippo! Donna Summer! Filippo il presidente! Allora, scusate un attimo, chiedo un silenzio a tutti, silenzio per tutti, anche lì a cena, per favore, avete parlato di dai, vai, vai, vai! Vai, non ne posso più! Silenzio! No, mi cago a voi! Grazie! Basta! Viva il benessere! Basta! Viva il benessere, grazie, dolce, grazie per il dolce, siete attimo tutti troppo dolci comunque. A tavola, volete stare zitti un attimo? A tavola, per favore, zitti un attimo, grazie. Un altro applauso al dolce. Chi è che parla qua? Chi è che l'ha fatto? Un altro ma come ti ha fatto il dolce? Pannacotta. È lei, Tiziana. L'ha fatto... No, l'ha fatto Lorenzo. Ah, Lorenzo. Allora, è Lorenzo che ha fatto Tiziano il dolce. Tiziano Lorenzo che ha fatto il dolce. Grazie Lorenzo per il dolce buono. Che hai fatto. Devo Grazie. Dire, la consistenza non mi aggrada, però il sapore ecco. Devo dire che non lo so. Comunque. Un applauso a Lorenzo. Grazie Lorenzo. Buono. Grazie Lorenzo, buonissimo. Ragazzi, un attimo di silenzio. No, non è possibile, silenzio. Come puoi pretendere il silenzio con questa tavola? Facciamo che stiamo zitti e mangiamo. Oh, intanto calmati, capito? Ah, questa è un'idea. Donald è uno di noi. Va bene, buonasera, soprattutto gli amici che si stanno accompagnando in questo viaggio meraviglioso. Allora, non capita spesso di poter avere la fortuna di presentare una delle amicizie più recondite che ci hanno accompagnato durante questo percorso fatto di necessità e virtù. Se è vero che i sogni approfondiscono l'inconscio, e stanotte ci abbiamo qua. Il professor Luis Dall'Aberto. Buonasera professore, prego un applauso. Buonasera. Sebastian, ne trovate il cappello? Silenzio. Oh, che bello. Io so cosa sta accadendo. Meglio. Silenzio. Sputa un po' di più, Filippo. Mi dicono di leggere una poesia, però non lo farò subito. Silenzio! Scelto per segno zodiacale, non per altro, non chissà per quale capacità. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata. Volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Scelto per segno zodiacale. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aglia spasimante, involontaria, rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli, io vi tradisco, vi ho sempre traditi. Io tradisco e ho sempre tradito. La ringrazio professore per questa bella novità che ci ha consegnato. La settimana prossima alle 15.55 ci abbiamo il ritiro muscolare. Attenzione, se buonasera e se buonanotte, se gli amici della notte anche stasera siamo qua. Sono gli ultimi minuti di questa bellissima meraviglia che abbiamo autogestito grazie alla compagnia delle Indie. Grazie alla compagnia delle Indie. Grazie. Bene, ci avviamo verso la fine, se così si può definire. Grazie. Abbiamo avuto un assisto la notte violentata. Maria crivellata come una trina. Una delle scuole di battuta. della croce rossinerità della vita con grande pesci Giovanni, veramente grazie anche a te, viene richiesto lo zucchero, grazie alla tavola che saluti, io vorrei veramente ringraziare tutti e perciò ti ringrazio solamente uno di voi, uno perché questo sogno ci ha permesso se di no, vivere la ci un'altra bellissima magari dolce. Ho detto che comunque oddio veramente. Allora chi è che scrive queste cagate qua. No, perché io sono di uno che si fa definire il notaio, Dario, Ariete. Allora, hanno in qualche modo rimproverato per una scarsa qualità nelle domande. Abbiamo avuto uno dei concorsi più poveri della storia. Abbiamo avuto una povera disgraziata di Ariete. La povera disgraziata del sagittario dei tuoi disperati. Allora, bene, senti, mettimi una cosa che ci salutiamo, che perché io anche io da fare, va bene, caro? Devo dare... Tu non l'hai chiesto il caffè. Va bene o no? Manca un caffè, cazzo. Grazie, bello. Ho salvato la grappa, grazie Enrico. Lui ha provato qualcosa di nuovo, non lo so, c'è stato lì, non lo so, uno l'appoggia all'altra, non è quello l'occhio, che non lo so, veramente lo sbagliato, e più o tre giorni, frate, ho tipo sboccato l'anima alle 4 del mattino, ho detto, frate, c'è sta la Conad, top, percorso qualità, razza chianina, con la maglia bianca che dobbiamo praticamente sì, alle 6 del mattino stavo nel letto, mi sento tipo che mi chiamano, allora, qua sono detto. Lo zucchero, detto, no, niente, sì, io, no, io ho capito. Flavio mi vuole mandare via. Hanno rubato il caffè. Chi? Dove? Non lo so, frate. Flavio ha tentato di cacciarlo. Mi sa che se sta attivo gira tutto. Dove vai, sì. Lorenzo? Aspetta, mi sarzavo. Dove vuoi andare, Lorenzo? Lorenzo? Resta con noi. No, vicino verso il bagno. Lorenzo, non mi conosce nessuno. Cioè, qui. Che bello che lo stai abbastanza. Eravamo in vedere il mattino. Per quello, anche se non mio nome. Non lo so, ci stanno tipo i lavoratori che fanno tipo il 110% bonus, frate. Che stanno tipo tutti quanti arrampicati in verticale su camera di Gabriele, che sta il Lorenzo, piano rialzato, poverino, frate. Io ho comprato i tappi delle orecchie che questa sera abbiamo gentilmente accarezzato dentro di noi. Come ci saluti, grazie Enrico, Gabriele, grazie, Enrico, non ci puoi salutare. Grazie Flavio. Grazie, grazie, bene, bene. Ora la vostra evidente, Flavio. Ma no, ma vai nel momento più bello. Ecco, nel momento più bello vai via. Il momento più bello, cioè, è tu dopo quello cena che vai via? Dobbiamo ancora vivere. Dopo, ecco. Dopo cena vai via? Dopo cena? Dopo cena, cioè, vai via. Cosa facciamo dopo cena? Ci stiamo facendo l'amaro. L'amaro? L'amaro? Cioè l'amaro che in realtà è una grappa, però. L'amaro, cioè, l'amaro del grappa del capo. L'amaro del grappa del capo. Che è il capo che era lì, guarda, ha fatto una bassano, ho detto, cazzo, guarda che faccio il grappino, vado a consultare il regista. Non puoi andare via, non posso andare se sei stato a cena con noi. Ma qualcuno dovrà mettere fine a questa, una torcia per Alexei. Guarda, la fine sarà la fine sarà drastica, tranquillo. Nelle vie bagnate, nella sicurezza delle torce, mi aspettavo un ingresso delle bagnate. Poca nelle di vie bagnate di safferana punica, tra il clamore delle corti. Ma non è che sta bruciando, no? Non scalda da bruciare il legno. Ma stanotte tu stai per apparire agli occhi. Ancora no. Gang bang gang, ciclo, sul beat, le ultime parole sono dopo un quarto d'ora, ma non ti puoi no, ma senti che volta di guarda dove era lo zucchero, c'è cazzo al buio, c'è cazzo al buio, c'è cazzo al buio, c'è cazzo al buio, c'è cazzo al buio, c'è cazzo al buio, c'è cazzo al buio, c'è cazzo al buio, c'è cazzo al buio, c'è cazzo al buio, c'è cazzo al buio, c'è cazzo al buio, c'è così alto, che battere con l'archi, che battere con l'archi, un po' peggio, un po' meglio. troppo peggio. Te rimani qui ancora con noi. Che cazzo facciamo? Quindi qua? Insomma, il bilancio è bilanciato. Deciso adesso. Allora, è stato smarrito il telefono. Se qualcuno l'ha fregato, è fregato di non fare il birra. Ragazzi, è stato smarrito il telefono. Un iPhone 852. Dove va la linea? Ma noi non ce ne andiamo. Ormai siamo qui, rimaniamo qua. No, tra poco cazzo, noi siamo qua fino a domani. Andrea, sono d'accordo. Anzi, portate un'altra grappa. Portate innanzitutto due grappe. Visto che sono due grappe facenti, viene no. Dato che stiamo millantando degli odorini che abbiamo sentito ma non sono mai arrivati. Veramente. Pretendiamo due grappe. Questo ci ha offeso lui, attenzione. Ci ha offeso lui profondamente. Io il microfono lo porto a casa. Lo tengo a casa. Cosa fai? Abbiamo due grappe e delle sostanze stupefacenti. Comunque, salute Andrea, visto che qua si sono andati tutti. Ore e ore. Quindi, dicevamo, ho strascicato la batteria, la mia carcassa circa usata dal fango come una suora. Sei iniziato tardi. Allora, negli anni 70 di tutti avevamo il gruppo. Un garello. Uomo di bene, ti basta un visore per farti un formaggio, un riflettore di là, mezzo di mare e la sacca. Nelle vie bagnate di Zaccarano, nel mezzo delle torce, nel mezzo delle torce, nei miei desideri, nel mezzo delle torce, traidato, sopra un carro, andavamo in giro in strada, io con questi fustini del DAC. Così alta, la batteria. Su queste case non è rimasto che qualche brandello di cuore. Meno male. Scuola di batteria. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Meno bene. Oh, bello. Cazzo. Ma nel cuore nessuna croce manca. Carmelo, così così. Ma fammi prendere una bacchetta. È il mio cuore il paese più spaziato. Cioè, ma serio, e lì mi ha preso male la storia, lui ha detto guarda vattene a fanculo. E lì poi la gente mi ha detto devo dare le perle ai porci. Poi a me il conga bonga perle ai porci. Ai tempi era no, è vero, sono proprio d'accordo perché comunque... Vabbè, grazie a tutti, potete andare a casa. Ho smesso una qua c'è la metropolitana, la 61, il 10. Il car sharing. Tutti i posti che vado, grazie. Salute. Tutti i posti che vado, Cipari, Bales, sono stato a Cuba. Qualche campanaccio l'ha preso. Anche, sono stato a Cuba, sono andato alla scuola di percussioni. Ragazzi, sai chi era Tito Puente? No, perdonami. Tito Puente. Il pagheron del timbalero. Capito. Infatti sono andato in sta scuola qua e mi ero intrippato nei timbales. Bomba, ma sei stato mai in Africa? Conga. Cioè in Africa anche perché l'Africa comunque ha un livello percussionistico notevole. In Africa, nel Borneo. Dove? Nel Borneo, sai cosa suonavano? I tronchi con sti rami, i bastoni. Cazzo, questi qui facevano come in Africa, dum dum. Sì, davano quella io base. Io da batterista, le Zeppelin, mi mettevo a picchiare, questo mi diceva, no, cazzo. Ah, quel cappello è di Sebastian. Di Sebastian. Sebastiano, che se lo trovava tempo fa. Scambio un cappello di Sebastian con il mio iPhone. No, Sebastiano. Sebastiano è stato trovato. Scusa, il tuo cappello. Che iPhone è? iPhone Relax. Cappello di Sebastiano. Eccolo. Trovato cappello. Manca di trovare un iPhone. Manca iPhone. Manca un iPhone. Vabbè, lo stesso valore del cappello? No, non credo. Ci sei legato? No, non me ne frega, però serve. E allora basta, chi l'ha preso attualmente ha guadagnato. C'avevi una password, magari che glielo sblocchiamo. No, ma magari dacci il tuo numero. Guarda, facciamo una 7904. Cosa. 7904. 7904. Chiamiamo l'iPhone di Lorenzo. C'è anche la password. Ma no, chiamiamo il tuo telefono. Era in silenzioso. No, l'unico casino, ragazzi, seriamente, che Lorenzo aveva delle robe compromettenti, per cui sarebbe meglio restituirlo, perché se lo becca il padre gli spacca le gambe. Oltre le braccia, oltre le orecchie. Comunque siamo rimasti in due. Io avevo l'albergo in Tanzania. Avevi una band in Avevo Tanzania. Un albergo in Tanzania. Ah, un albergo. Un albergo. Che cazzo ho detto? Che fine ha fatto quell'albergo? Oh, scusa. L'ho venduto perché ero sposato. Ok, con la faccia che vedo devo dire che il matrimonio ti ha fatto fare una cattiva scelta di abbandonare quell'albergo. Ho seguito l'amore. Vedi. Ecco. E dopo che ho seguito l'amore me lo sono preso nel marone. Vabbè, questo purtroppo è... E in una settimana l'ho venduto, era Zanzibar. Conosci Zanzibar? Sì. L'avevo nella Stone Town, che è il centro storico di Zanzibar. Qui abbiamo una persona che è arrivata. È un po' in difficoltà, devo dire. Il soppiatto. Tutto ok, è tornato Lorenzo. Lorenzo è spuntato dal cellophane, incazzato nero. Secondo me Lorenzo lo dobbiamo lasciare nella sua agonia, perché secondo me più gli parliamo e più gli diamo. Allora, Lorenzo, devo essere sincero, sono tranquillo, però no, ti caga il cazzo. Allora, ma Lorenzo, è utile. Allora, Lorenzo, è utile. Ascolta, no, certo, ma il telefono sei andato nel bagno. L'hai appoggiato fuori? Tu dove l'hai appoggiato? L'ultima sei andato volta a bere, dove l'hai lasciato fuori? Sul ma banco? Tipo io ero qui. Allora, ascolta, sei sicuro che quando eri qua dentro ce l'avevi? Al 100%. Allora, ragazzi, cercate in giro, guardate per terra, nel cesso, dove cazzo. Allora, ragazzi, trovate un cazzo di telefono, perché qua Lorenzo si è perso il telefono. E porca puttana, che... chi ha due telefoni americana. Nelle tasche? Chi ha due telefoni nelle tasche? Uno è di Lorenzo. Io controllo, ne ho uno. Lorenzo, è tuo? Porca puttana, è tuo? Ma come mai c'ho due telefoni? Non è suo. Vabbè, è basico. Nel frattempo Lorenzo va a scaricare, perché dice la tensione ci sta. Abbiamo un nostro amico che si è anche lui perso qualcosa. No, stai cercando il telefono, ma stavi aiutando Lorenzo. Però non va bene, lui non ha il telefono di Lorenzo, sicuramente. Se lui è sicuro di essere entrato qua col telefono, siamo in un club privato. Cazzo, tirate fuori sto telefono, infatti. Dai, ragazzi, minimo. Su, aiutate Lorenzo. Qua, svanito. Viene no. È arrivata l'ora? No, non funziona il l'orologio che ti sei messo sul polso. Quindi? No, dicevamo, scusa. Io avevo la bella. Quindi andavo di parlare spesso. Perché avevo un movimento... Okay. Serengeti, non Gorongoro. Un uomo nella contrada dei più tremendi banditi e ciarlatani. Di passaggio a dicembre. Vabbè, comunque ogni tribù che aveva dentro avevano i loro tamburi, perché ai tempi comunicavano coi tamburi, che erano questi tronchi di legno. Beh, che tagliavano. Trovato. No, non so, lui. Quanto costa? Senti, mi stava raccontando del suo albergo in Tanzania. Secondo me è una cosa interessante. Vuoi ascoltarla con noi? Bene. Quindi... senza problemi, eh. Cioè, se vuoi cambiamo discorso. Vabbè, comunque no, mi stava dicendo. No, dimmi più. Telefono. No, allora, due cose. Il telefono di Lorenzo. È sparito. Lui millant alcol. Lui che si è bevuto una bottiglia di spumante tutta da solo. L'abbiamo visto. Siamo in due. Se l'è scolata, era la nostra, quindi dovete portare un'altra bottiglia. Io un refill, scegli o sostanze stupefacenti o meglio la prima, meglio. O sostanze stupefacenti. Vai con la prima. Anche perché io ripeto una cosa, abbiamo sentito odori non consoni. Sì. Ragazzi, tirate veramente fuori e fate il bene comune, dopo regoliamo i conti. Cioè, non posso dire aggiungere altro al mio caro amico, ma ragazzi, dai, siamo in una comunità, siamo in una comunità, non fate i bastardi per quello che si crede, cioè, fateci un regalo, puttana Eva, dai, non chiediamo tanto, infatti porco zio, cioè uno non c'è un cristiano che venga qua dentro a dire ragazzi vi ho capito, mio cane, to, porca puttana, vai, siamo tutti, eccolo, eccolo, e lui è arrivato, cosa ci porti? Cosa ci porti? Niente. Perché sei qui? Sta solo sparecchiando, cazzo. Ma tu sparecchi e basta. No, ma c'è portato qua. E perché siediti sei qui? Qui con noi. Siediti chi qua sei? Con noi. Come ti chiami? Tu dove sei nato? Dove vivi? Oh, ma tutti i milanesi qua, sono io l'unico fuori luogo qua. Non sai guardare il cappello, l'importante è che porta. No, ecco, quindi cosa ci devi portare? Sei venuto qui? Cosa ci hai portato? Niente, siamo al punto di prima. Oh, ma ci sentite o siamo rimasti solo noi quattro in tutta l'aura qua? Qua mi sembra che siamo rimasti solo noi quattro. Ci hanno abbandonato tutti e tra l'altro non ci ascoltano, grave come cosa. Ma scusa, poi si siede, non ha neanche da bere. Appunto, qui dobbiamo. Allora, ok, abbiamo capito che. Vabbè, facciamo il punto della situazione. Buonasera, buonanotte, gli amici della notte. Facciamo il punto della situazione qui dalla regia. Comunichiamo che, visto che le nostre richieste sono state praticamente bypassate, chiediamo almeno qui ai nostri commensali. Abbiamo qui il signor. Signor! Il signore. Il signore. Perdoni caro Andrea, Guido, posso fare un intervento? Il secondo Guido che conosco nella mia vita, Guido Manuale. Guido Manuale, Guido Manuale, e abbiamo qua un altro ragazzo che si chiama Guido 2, Johnny. Allora, Godot. Con questa tavola che abbiamo, sai chi era Johnny Godot? Allora, Johnny Bravo. Quello col ciuffo, te le più. Ci hai portato qualcosa da stravolgere, sì o no? Qua abbiamo Johnny Bravo. Cioè, ragazzi, qua ci fate andare ad alcol e noi abbiamo stupiteci nella vostra bontà. Visto che non ci stanno ascoltando, io direi prendiamoci una pausa. Nella pausa bisogna dissetarsi e idratarsi, perché qui abbiamo due nuovi commensali che non hanno ancora ricevuto. Cioè, insomma, non c'è servizio. Qui Guido dice non c'è servizio, con degli occhi assurdi, tra l'altro. Però, terribili. No, questa è vuota. Non c'è servizio. È tutto vuoto. Allora, a casa mia, quando arriva qualcuno, la prima cosa che gli si dà è un bicchiere e poi viene riempito, ok? Allora, qui ora non sono a casa mia, ma c'è un tavolo che vuole a quello di casa mia. Sbagliato. Anche se ci siamo persi ormai i due commensali serata. Lorenzo continua a cercare il telefono nei luoghi più pensati. Guarda ragazzi, perché voglio restare tranquillo, ma ci sto incazzando. Ragazzi, allora 3-4 lo conosco da 50 anni. No, trovate il telefono. Faccio una buona notizia. Secondo me è il telefono che deve trovare me. Ottima filosofia. Our music matures over four seasons. Traveling the planet, must we give you more reasons to believe? The compilation of Earth instantly made our sound work group. Popularity high, availability hard to find. The third chapter is solo, four tracks live from the ground level of your deep sound waves. Words with meaning tied to feelings help cast living tracks on things new. One day will be artifacts. Time turns in circles, also wait for no man to sit back and idolize. While these stars materialize before your eyes, as comets fly over the night sky, crossing distant constellations of stars. The music on the orchestra, it can take you across to the other side of life. None of my stress is about living. I can help to escape this. State your destination, organic styles, blood communication, cosmic sounds, got the earth, bound forces and nature, in between lines, we infiltrate minds, entwine, we break some faces, while we travel time. Allora, ripeto, per favore, ripeto. DJ, ascolta. DJ, abbassa la musica. Ok. Se non allora, la passi la musica ti spacchiamo le gambe. Per favore, siamo diventati 5 sul tavolo e qui abbiamo bisogno di alcol, di sesso, droga e rock and roll. Anche quello è consentito, come per il cameriere. Hai preso il cappello? Mm. L'ha trovato lui, eh? Il cappello l'hai preso. Che hai trovato era tuo. Allora, ricapitolando, io volevo, cioè proprio sono diretto 5 grappe qui. Sì, perché come ancora? Ma ragazzi, quanti anni avete? Si sono aggiunti. No, allora ragazzi, allora io si sono aggiunti due. Non voglio fare quello che fa, però se fate la serata facciamo la serata. Ma tra visto l'altro che... non preoccupatevi. Allora, LSD no. Beh, psilocibinano, mexcalina. Guarda, l'LSD no, perché dopo dovevamo andare avanti minimo 6 ore per poi 8. Ti posso dire una cosa? Cosa? Oh my god, Luke Skywalker is here. Luke Skywalker is here. Sì, microfono, io ho trovato la voce. Certo. Guarda, ti dico, io ci credo. Lo so, ma io ho capito chi sei tu, eh. Tu ti fai chiamare così, ma in realtà non sei. Comunque, tra l'altro, tra i miei libri che ho letto, i miei pochi libri, al ho trovato la voce. Ho letto il tuo libro, il mio bambino, il signore, che parla appunto della scoperta dell'LSD. Parla anche dei... Avrei di robe da raccontare. Ma infatti ci scambieremo i contatti. Ah, tra l'altro... Tra l'altro invito tutti il 12 a sentire la mia... Vieni a sentire, suona alla grande, dai. All'architettura. Assolutamente. Vieni? Assolutamente. 12, sabato prossimo. Sai che ho fatto... 2 anni fa ho fatto delle foto per la Fender. Stato guarda, piatto, se, ti se ti porti la... Allora, io voglio che tu ti godi il concerto. Perché io faccio delle foto. Però se vuoi fare delle foto fallo. Se si può fare, facciamo due robe. Ti do io il permesso, assolutamente. C'è degli amici che suonano quando fanno. Guarda, vieni a fare delle foto anche dove suoniamo, facciamo le prove. Tu hai il gruppo, suoni? Cazzo. Siamo appena nati. Io ho amici che suonano Rita, certo. Porta i tuoi amici sabato, roba tosta, eh. Loro suonano, fanno le serate. Poi ti dico vieni, magari ti fai una serata, vieni. Johnny, arriva la grappa. Arriva la grappa e te ne vai. Mica. Allora diamo la parola al nostro amico Guido che è qui con noi. Scusaci Guido, ma l'hanno un microfonato un... a Guido. E l'hanno... Attivate il microfono a Guido per favore. Cioè, quel telefono lì di chi è? Io. Gio mica, ma è lì. Ha schifato il mondo. Scusa. Scusa. Silenzio, basta la musica. Si può avere un altro caffè? Grazie. Ok, vai Guido, vai, illumina questa stanza. Ragazzi, c'è una richiesta dal regista. C'è una richiesta dal regista. Stava parlando Guido. No, allora facciamo così. No, facciamo così. No, posso fare una richiesta diretta dal regista. Poi scusami Guido, ti passo immediatamente la parola. Anzi, parlo col regista, io faccio questo annuncio e poi voglio passare la parola a Guido che era qui con noi, voleva parlare ma non ce l'ha fatta. Quindi dopo questo annuncio voglio far parlare Guido che ci vuole dire due parole. Ok? Perfetto. Tutto regolare. Adesso il regista attende gli attori tutti nella sala. Che escono da qui. cuore. La prima sì, vi dirò di più, non nella sala ma bensì in un'altra amore. Dimensione bravissimo ma... e quindi no, prima di andare in un'altra dimensione volevo dare due secondi dire? La parola a Guido. Guido, di la tua veramente Spinello. Dai, forza, veloce, una canzione d'amore sostanzialmente. Ragazzi, cosa ha detto? Guido, attivategli il microfono. Ti devo dire tutto due lì. Parole da. No, aspetta, Guido, ripeti. Sono solo due parole che escono dal cuore. La prima è ti, la seconda è. Ora qui. Bravissimo. Dove dobbiamo andare? È un'altra dimensione. Ma ancora dobbiamo mettere tu. Il giacchino per l'altra dimensione. No, e allora via. Ora però io so chi sei, chi pensavano Sant'Antonio, ma lo apprendevano da due, da tre, da tutti. Si mettevano a fianco nella riga del tuo tempo, fermatosi di botto. Case, di mobili, di impiegati e di mercanti. Era un giorno, un innocuo giorno più innocuo ad una decina di precedenti giorni tuoi. Si affollavano allineandosi nell'anticamera come allineati dal tuo sparo. Tu dormivi, spianato il letto sulla maldicenza, dormivi e cessato ogni palpito eri placido. Bello 22enne, stringendo aveva predetto il tuo tetrattico. Tu dormivi stringendo al cuscino la guancia, dormivi a piene gambe, a pieni malleoli, inserendoti ancora una volta di colpo nella schiera delle leggende giovani. Tu ti inseristi in esse con più forza, perché le avevi raggiunte con un balzo. Il tuo sparo fu simile ad un Etna in un pianoro di codardi e di codarte. Sangue uccidono, mi affluiranno alla gola e mi uccideranno. Mi sarei nettamente rifiutato di scherzare con siffatto intrigo. Il principio fu così lontano, così timido, il primo interesse. Ma la vecchiezza è una Roma senza burle e senza ciance, che non prove esige dall'attore, ma una completa, autentica rovina. Un qualcosa in te è quel che tornerà ricorderò. Ritornerai, ritornerò. Ricorderai, ricorderò. Ricorderai, ricorderai, ricorderai, ricorderò. Our man, Flint. Thank you. A quanto pare hanno lasciato il microfono acceso. compito i giochi contro l'arroganza del mondo che è pieno di cose inutili da fare, cose inutili da dire, quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta. Il ricordo di un amore viaggia nella testa, non c'è una ragione quando cerchiamo quel che resta. È come un vento di passione o una rosa rossa, il ricordo di un amore ci cambia e non ci lascia. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare le parole, ma il ricordo di un amore continuo a viaggiare nella testa. Il ricordo di un amore lascia in bocca il sale ed arriva dritto al cuore senza nemmeno avvisare. In una lettera d'amore, è nel canto del mare, ma il ricordo di un amore ci parla e non ci passa. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so capire le parole, ma il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa. Nel senso di zucchero, di sole e d'azzurro. Dirige il maestro Michael Baker. Welcome. Canta Giorgia. Buonasera. Thank you.

fai cura di tutto